sicuramente entrerà anche Giovanni, che aveva gente, quindi ha dovuto mollare. Dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Grazie, buonasera, dai. Anch'io mi faccio altre due cosettine qui, controllo qualcosa di Giampaolo e così che nel mentre dopo avremo modo di fare qualche controllino, passarci una mezz'oretta, dai. Ok, buona cena, buona carica. Ehi, ehi, ehi. Ciao Claudio, buona carica. Sì, vedi, già c'è Gianni, là. Ciao Gianni, ci sentiamo dopo per andare a mangiarmi due pezzi di cosa, là. Ti lascio con Gianluca, ciao. Devo ancora mangiare, ciao ciao, buona carica, dai. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Ma non è che hai sbagliato calata? Stai mando qua fino a qui. Ciao Gianni. Adesso quanto ti sto arrivando, Gianni? Di 9V. Che cazzo non è possibile? Oh, è l'antenna che l'hai girata. Secondo me hai sbagliato calata, Gianni. No Gianni, dai, ho fatto anche dei accorgimenti qua alla radio, che non mi stava dando i bassi della cosa, ho controllato dietro la regolazione del segnale e la potenza, ho staccato su un accordatore e ho regolato i passi con la radio che sono uguali, equivalenti al vattometro, capito? All'accordatore vattometro che ho adesso attaccato. Tutto lì, niente di... che può darsi che l'abbia un pochettino aumentata, ecco. Allora, tutto lì, però vedi, per esempio, io adesso per sentirmi leggermente più forte di radio, adesso io prendo, adesso sto uscendo. Ecco Gianni, mi potresti dare un controllo a te? Prova, adesso sei come l'altro giorno. Ecco, adesso è leggermente abbassato un po', no? Sì. Adesso sei come l'altro giorno, non mi arrivavi l'altro giorno, sta arrivando adesso. Scappa comunque, per essere un dipolo vai alla grande, dai, vai alla grande. Mi pare che mi lo potrei morire un dipolo puntato verso Porto Torres, la zona del mare e via. Guarda già, io adesso ne farò qualcuno veloce a Giampaolo, lo stesso. Insomma che già ne ho un po' di materiale, anche di tifosi del PL da fare. Devo trovare che c'aveva una specie di, non è batterite, ma era una cosa in pezzi dal grosso. Sembra che era da 5-7 mm di pezzidal, dopo l'avevo visto quanto sigillato, avevo fatto dei buchi per attaccare i tiranti e il capo. Capito? Ti giuro, guarda, dovrei salire qui in questi giorni, appunto a vedere un poco le valigie e controllare qual è questo qua, qual è la posizione, così meno. So qual è praticamente quello che sto operando, dove è puntato, tutto lì. E guardo come l'avevo fatto, come era il materiale che dovrei aver preso. Perché non te lo segni già lui? Non è il filo di calata, dove attacca il piede ci scrivi D per dipolo, poi antenna 1 e antenna 2, arrivi qua. Questo era ma cos'è gassocco, se no non comprate mai cacchera di attacchetti. Insomma era fatto così, deve essere che tirando quella cosa lì si è staccata e avevo messo del nastro colorato l'uno di verso all'altro, no? Dopodiché sì, praticamente nelle cose più importanti gli ho messo del nastro rosso, in modo che se io dovessi essere fuori e si cominciava a mettere tempo male, ma mangia cosa di visita, un credo lo devi caccare, tutto questo per lui io caccaro. Ah ecco, ora che c'è segnalato il figlio a staccare, hai fatto bene. Ma comunque sono dei bei puri, complimenti perché va bene, molto bene. Io mi ricordo che quando ero un ragazzo ti facevo i dipuri da 2,75 a braccio, però li facevo con l'RG58, tutto di RG58. Io capisco, sì, e praticamente usi la calza col polo caldo, così è. Cuore osservatorio. Lo metto, ciao Luca. Ciao Lu, ma quel tipo che è morto, quel militare, tu non lo conoscevi? Pure lo conoscevo, il padre era vicino del fuoco, adesso è in pensione, mi sa, non mi ricordo, non vuoi sbagliare, lo sai che è in pensione, sì, purtroppo è morto di cancro. Ma io la faccia, io conosco se è possibile. A proposito, il funerale del padre Eugenio qua a me. Ciao Luca, domani sera mi sembra. Domani? Mi sembra domani sera. Però, io non ci posso andare perché c'è anche il colloquio dei bambini. Un casino, andare. Mi è dispiaciuto, poveracci. Faccio il mio video. Si guardavo a dire tu il fuoco e tu cuore. C'è un po' casta. Adesso mi mangiare, c'è una vista cardiologica. Alle 8 e mezza ma se ne va. E vediamo un po'. Perché cosa c'è? Posti di lavoro ti fa una visita, no? Mi ho fatto la relazione. Ah, vabbè, per controlli da Florida. Già un po' di tutto si muove, dice ti calavi no, se veniso ti qua calavi, se ascolti violina, moto, macchine che si sbattono, di tutti i colori se ne sentono. Io sono d'accordo con te, ma molte volte se la cercano già, attenzione, perché molte volte capita, più delle volte, la malattia ti ammazza, usi. Quanto amore la poveraccia, morta di infarto. Ma magari la vogliamo mettere un cielo niente. Ma non aveva bisogno di comprare una mazza, va, via. Ma carità, sono mazzindaggi, no? Vabbè. Purtroppo, è così, la vita ogni 16 ore non si sa. Perché è così, la vita. Questa ragazza c'è. Ma non l'avevo più visto in giro, lo vedevo ogni tanto. C'è una golfunera. 31 anni ragazzino, ma da tanti anni con l'esercito e era anche uno anche abbastanza saluato, sì, riusciva a fare anche le missioni, poveraccio, poveraccio, e vabbè, già 31 anni, ormai non c'è più. Ma lo sai cos'è? Che quando vanno, sparano e fanno, tu lo sai benissimo che le bombe a malto, queste cose lì contengono sempre delle sostanze radioattive. Sì, vabbè, certo, ma comunque, popolaccio qua, guarda, io lo metto in TV, non va questo programma, allora ti chiamo dei pegni, va. Vabbè dai, fa vedere un attimo a piacere, dai, se no, se no che la vita è un'imbuffatura, bisogna campare a vera. Purtroppo, le cure da cui di fare in terra, e io dovuto le cure dalle mani. Ma purtroppo c'è l'altro, deve essere portato. Vabbè, anche da te. Già se posso provare il lavoro in fase, purtroppo. Passaggio siamo. Ok, ciao. Cosa combinato oggi, Sammy? Ci ho occupato pure un po' di giorno. Stamattina ho visto il bel tempo, ho preso la moto, mi sono fatto un bel giro. Sono andato a Plattamona, mi sono letto il giornale, ho visto Fabrizio mascherato alla rotonda. Però se ne stava andando quando l'ho visto io, era con un amico, gli ha detto che stava andando a Porto Torres. Poi sono sceso a Porto, mi ho fatto un giro, sono andato dove vado a pescare io, ho visto che c'era un po' di gente, che mi stava vedendo anche la paura di andare a pescare. Poi sono salito a Sassari, come al solito, di domenica vado a trovare mia sorella e poi mi sono ritrovato a casa a mangiare. Tutto bene. Devo ritardare il zaino, quello va fuori. Ok, è stata veramente una bellissima giornata. Sono veramente stato contento. Lavorando stavo. Io sono partito con 11 gradi, adesso se ne sono ritornato a casa con 15. Stava benissimo in moto, anche andando fuori. Ah sì, no, vabbè, no, oggi no, oggi era il riposo. Oggi mi tocca avere il corso, domani si inizia ugualmente. Devo usare. Ed è certo, manco male, manco male, ma come tu sono di ricordo, dai, da questa città. Gianlu, prima di entrare in questa città, quanto sei stato fermo? No, io praticamente ero 8 mesi ed ero in disoccupazione, capito? Ah, ma ti pagavo la disoccupazione? Sì, in poche parole, diciamo che da una parte sei fortunato. Io questa cosa qua mi devo informare bene come funziona, perché è vero che la disoccupazione si paga, però da voi sì, i contributi che ti mancano, che tu vedi solamente figurativi, da voi non ti lasciate i retributivi, capito? Beh, quello sì. Vabbè. Non tutto si può avere, almeno il buco te lo tappa un po', va. Almeno sì, ma non sarebbe sì. Il buco te lo tappa. Quel contributo lo vedi che lavoreremo. Di cosa state parlando? Ti la stai in piedi? Subito, è malizioso entrate, capito? Oh, Gian, ti stavo dicendo, ti volevo dire, Gian, tu, quando io ho visto questo cane, guarda, un bambino sembrava andata a finire sotto questa macchina, qual è il tipo, era poco più grande di Luna. Tu vedevo questo cane, va, solo quelli ti facevano appena. Wow, c'è una cosa così, io mai è successa una cosa del genere. Passando lì, mi hanno toccato la testa alla macchina, poi sono la ruota di dietro. Mi toccato il pulì, quel tipo ha preso un pallone sicuramente, c'è una putta addosso, di civiliano a pallone. L'ha preso il braccio, mi ha toccato, l'ha preso in macchina, c'è cioè la bocca aperta, guarda, tu vedi lo stoccane, una bella, poi ci sono diciamo dei ragazzini, studenti sicuramente, io ho infame, aeroporti, non mi guardare la parola che stava qua respirando perché gli ha preso il petto di dietro, le gambe di dietro gli ha preso, no? Ah, io non lo faccio, sta ragazzo, ma non parli bene, scusa, io non lo posso essere anche tuo nonno, e io voglio portare a farlo controllare questo cane perché è ancora mio, ma non c'è bisogno di dire che è infame, scusa, è la che rimane al diritto. Scusa, per portare su Cristina, ma non mi sono 17 anni. Vabbè, non avrà fatto mica apposta, ma l'università che un bambino mi vicina al tabacchino di Asciucci, dove c'era prima il tabacchino, dove ci sono quei passaggi pedonali, non ho visto un bambino di 5 anni ieri, se tu guardi ci sono ancora, come hanno fatto i rilievi i vigili urbani, il coso verde, hanno messo sotto uno lì e uno via Pascoli l'altro giorno, lo stesso, l'hanno messo sotto in via Pascoli. Ma che la tocca mi ha fatto una pena, forse te me la so con l'una, perché ero abituato a entrare in Italia, però adesso da oggi in poi. Con guinzaglio fuori, altrimenti perché gli parte di spalle in picchiata esce a casa, se passa la macchina ti ha trovato un po' di volte, ma un bel po' di volte, infatti la prossima volta adesso sembra un guinzaglio, la porto in un punto dove deve fare dei bisogni, io lo stacco, fa i bisogni e poi lo metto a guinzaglio, perché da lì è parti, ma è un cane e scappa, noi saliamo adesso se passa la macchina o meno. Chiedi a Claudio che cosa ho fatto io sulla butti butti, ma l'ha messo sotto un cane, se ne stava andando, l'ha giù bloccato quella macchina, l'ho bloccato e allora facevo il servizio protezione civile, gli ho fatto vedere la tessera e gli ho detto se non soccorre questo cane la sto subito denunciando. Ah, guardi che io non gli ho fatto una, mi ha rotto addirittura la macchina, a uno che lo poteva evitare perché ero dietro, il cane stava andando piano piano e lui che si è distratto, un riccio. E trabigliato in pieno. Dice guarda che io sono un ex maresciallo di polizia, allora pensate anche un maresciallo di polizia dovrebbe, il cane che barcollava, si è cagato due volte addosso, dice che non c'aveva nulla, c'era tutta la gamba attrappata, e sicuramente il femore è rotto. E ho chiamato, sono passati in quel momento quelli baraccini, li ho chiamati, e gli ho detto, ascolta, potete chiamare guardi zuffi, che c'è un cane qua che hanno investito, eccetera, eccetera, adesso noi non ci possiamo interessare, però chiamiamo le guardie zuffile, hanno fatto informare le guardie zuffile, poi sono scese loro con l'ambulanza dei cani, quella che porta i cani, l'hanno portato al veterinario. Dicevo, devo andare a un appuntamento, a me cosa me ne frega, gli ho detto, prima soccorre il cane e poi va. Beh, certo, certo. Questo un attimo, lo chiamo, adesso è con l'arrivo. Tanti, Globino. Scusate, c'è una bassa, riguardo subito. E avanti, Gianluca. Hai capito cosa ha fatto questo bastardo? C'è detto la niente. Se ne era andato, ha detto che non ha fatto nulla, che aveva fasciato il muro della macchina, che ma lì che l'ha investito, il cane stava andando piano piano, stava attraversando piano, lui sicuramente era distratto, che cosa, però possono succedere queste cose per carità, perché... E poi era un cane che c'aveva anche il guinzaglio, il collare, quindi con la medaglietta e tutto quanto, non era un cane randaggio. Una volta Gianluca ho visto, tornando sulla Budiuti, questo cane che avevamo messo sotto, un pastore tedesco, cucciolo però, avrà avuto 6 mesi, da, se gli avrà pure forse 4 mesi, da. Questa macchina l'ha messo sotto e se l'è scappato, e l'ho visto col femore rotto, capito? L'ho preso in braccio e nel mentre stava passando questo veterinario, ha detto se me lo metto in macchina perché sono vestito bene, lo porto alla veterinaria di Sassari e lo faccio curare, poi se il padrone viene, se lo ritira, se no me lo prendo io. E gliel'ho caricato nella macchina, l'ha adagiato, gli ha fatto un posto nel cofano, cosa, c'aveva dei sacchi di campagna, roba del genere, l'abbiamo messo sopra, adagiato bene e se l'ha portato alla veterinaria. Oh, scusate se riprendo così. Ho venduto il 140. Ciao, quanto? Assai? Ciao Luca, ieri ero giù da Papazzango, non ti ho chiamato perché era una festa di bambini, non era il caso, eravamo in cose, in piazza dove di fronte al ristorante di Ciria. Sono chiamato, ero in Ghisegoni io, prima per fare un attimo uno squillo, non c'era problema, sarei stato tranquillamente libero. Ma non era una festa divertente, c'era la pentolaccia, siamo stati 2 o 3 ore, dopodiché ce ne siamo andati. Allora l'ho messo in vendita con un compra subito a 3,50, a 2,99 hanno già fatto la prima offerta. Ha pagato quanto? 300? 2,99 hanno fatto la prima offerta, io ho messo il compra subito a 3,50. E ho fatto la prima offerta come se fosse venduta, capito? Baby! Diavol! Ma fatto bene. Altro no, fra l'altro ho messo anche una foto di repertorio, perché questa cosa che ho messo è la foto dell'altro, il primo che ho venduto. Questo è ancora più nuovo, ma poi l'hai visto già, cioè, te l'ho fatto vedere. Io l'ho visto. Se avessi potuto me l'avrei preso io, già lo sai. Ma purtroppo troppo spese, e adesso la domani porto la moto a fare anche il tagliando, non vendere ne abbastanza anche questo. Guarda, adesso che l'ho venduto ti posso dire la verità. Dimmi. Perfetto. Cioè devo dire perfetta, è una radio che non mi sto tenendo perché non riesco, ti ripeto, non ti direi balle adesso ormai, a parte che non te ne avrei detto comunque, però è perfetta, quella radio è, non ha un difetto. Però, dai, ti faccio la scena, me lo dai a me stasera. E ormai non posso, sai, ormai una volta che è entrato in asta non posso più. Scherzando, Antonio, figurati. No, sono una persona seria io, non c'è problema. No, se no te l'avrei fatto da prima, dai. Ti volevo fare una proposta, poi mi sono un po' vergognato e non te l'ho fatto. Guarda, hai fatto male, perché non... siccome immagino che tipo di proposta mi stai facendo, mi avresti fatto, è la stessa proposta che io ho fatto a una persona a cui devo comprare un'altra radio, quindi sarebbe stato un passamano e basta, e mi sarebbe andato non bene, benissimo. Vabbè, te ne avrei fatto una adesso e una il prossimo mese, là. Però no, mi ha dato un po' di fastidio dirtelo, quindi non te lo vedo. Ma già, ma guarda, adesso ti dico io alla persona che mi stava comprando queste, il fratellino un attimino più grande, ma non ho problemi, io direi anche chi è, non ve lo immaginate. Gli ho fatto la stessa cosa, gli ho fatto la stessa proposta, ma non perché uno non ce li ha i soldi, ma perché senza fare il conto in tasca a nessuno, ognuno di noi ha gli hobby, i propri hobby, e ne ha più di uno, quindi divide a seconda dell'hobby la spesa che può fare, quindi niente, se viene comodo uno fa l'offerta, dopodiché ma l'hai fatto non farmela perché io ti avrei detto guarda non posso, oppure sì mi andava bene, mi sarebbe andato benissimo, ma perché ti dico questo? Perché adesso chissà in mano a chi va a finire e mi gira le balline, perché era perfetta questa radio, se ve la vuol dire perfetta, non ha un graffio, dentro se l'apri è mano nuova, fiammante. Quando l'ho portata da Fabrizio per la riallineare, secondo la testa mia, mi ha detto guarda, non la tocco perché è perfetta, quindi non ha neanche riallineata, talmente andava bene. Capiterà in mano a una persona fortunata, che la bottiglia. No, quello che mi gira le palle che magari capita in mano a un cazzone qualsiasi che inizia a scacciavitarlo, è davvero un peccato. E vabbè. Una volta che ti ammali su ti ha fatto i bimbi, dopo puoi fare ciò che vi piace, e lo so. Guarda, se una proposta me l'avessi fatta un mese prima, te l'avrei comprata a occhi chiusi subito, ma purtroppo ho avuto spese questo mese, bolli e assicurazioni, e adesso devo fare tagliando la moto, insomma, un po' tutto mi ha tagliato le gambe. Guarda, sfondi una porta aperta, ma poi ti ripeto, è una questione che ognuno di noi sa, e a me danno fastidio le persone che fanno il passo più lungo della gamba, piuttosto che una persona che mi dice sinceramente guarda, non posso, per una serie di motivi che ognuno sa di sé, quindi so benissimo, sai quante volte io proprio ho trovato anche gli affari e non ho potuto mettermi nella condizione di acquistarlo, non mi sono potuto mettere nella condizione di acquistarlo perché avevo fatto altri tipi di spese, altri tipi di investimenti, poi soprattutto in questo periodo, guarda, considerando che il mese scorso ho pagato tasse, che sto facendo tutta un'altra serie di investimenti, ti dico, ne sto guadagnando, ma che non ne stia spendendo. Va bene, interessante guadagnare, quando ci sono da spendere anche tu, sempre ben venga, no? E i guadagni, perché se non ci sono i guadagni poi fare le spese è un po' in salita, no? Quindi sempre meglio che ci siano i guadagni prima, poi se ci sono spese ciccia, pensate che si abbia risultato per pagare le spese. Avanti, oh Gianluca non risponde. Vabbè. Noi ci devo andare a mangiarmi una pizza ancora, mi ha chiamato mia moglie, le sta facendo, me le fa fresche e fresche, me le ha fatto fare una con le cipolle adesso come piace a me, e me la mangio proprio con gusto. Mentre invece a Sorso hanno fatto quelli dell'organizzazione questo banco dove erano vestiti tutti quanti da cowboys, ti davano una ciotola con lo stufato e un pezzo di panna, hai presente i fagioli stufati alla John Wayne, quanto sono buoni, me ne sono mangiato due tazze. Allora stanotte si di concerto. Stanotte fuochi d'artificio, no, e poi te lo davano con un pezzo di cugone di sorso. Sì, e hanno la mania dei cowboy a sorso, anche il mio collega a Camervale è venuto da cowboy. E poi il pane di sorso, che lo chiamano il cugone, quella specie di pane di grano duro, di semola di grano duro, che fa il pane nero, no? Tagliato a fette, ma lo sai la scarpetta come ci va bene. Oh, Luca, ti devo dire una cosa. Luca è scomparso, ma sta combinando qualche cosa? No, Luca di Del Monte. Ah. Luca Manicu. Oh, Gianluca, ma sai, era un attimo il telefono. Ah. No, Manico lo stava chiamando, poco fa ha chiamato anche a te, perché ho fatto ripetere invece non è ripetere. Anche a Manico lo stava chiamando Grotte, aspetta, Manico, non c'era. Riprendi Gianluca. Sì, un attimino che sto collegando una cosa, Gianni, dammi per un attimino. Penso che sia tutto passato in cavalleria, vero Gianni? Invece non sai che proprio adesso si sta muovendo la cosa. Proprio ora si sta muovendo e secondo come devo andare a ritirare i permessi esattamente domani mattina. Ah. Perché ero indeciso e magistrati mi hanno detto un attimino di andare, perché gli avevo detto si poteva cambiare d'atto. Lo sa che non ti riconoscerà, tanto più si parla qua e più bisogna dare date certe, cose già fatte. Comunque è tutto pagato, pronti, partenza e via. E vabbè, tu avvisami, perché ci sono da mettere anche i soldi, tutto quanto, bisogna contattare le persone, no? Ma di cosa? Ma ti pare che mi metto a fare la colletta per 17 euro, di cui 14 euro di marche da bollo e 5-6 euro di suolo pubblico? Ma smettiamola, aiuto. E fra l'altro succederà questo, siccome stiamo facendo opera di proselitismo, nel senso che faremo pubblicità al fine di poter ripopolare un pochettino, si farà il pacchetto, e cioè con 100 euro ti costruiamo la stazione, facciamo così. Cioè le persone dichiariamo a seguito della spiegazione che cos'è la CB, tutta questa serie di cose qua, poi gli diamo il pacchetto pronto, cioè un'antenna più un baracchino nuovo, con l'antenna nuova, più un alimentatore col cavo dell'antenna piazzata, cioè andiamo noi a piazzartela, chiaramente se le condizioni sono ottimali per poterla piazzare, gli costa solo 100 euro. E come fai? Hai già contattato qualcuno per darti questo materiale? Guarda, l'Intec 500, non mi ricordo cosa, adesso quello che avevamo, l'Intec 100 Plus mi sembra che si chiami, una cosa del genere, che è quello che ha tutte quelle bande, la possibilità di andare su tutte le bande, che tutto digitale, costa esattamente 46 euro. 28-30 euro ti costa un arringo di cavo, se non abiti in un grattacielo ci sono 10-15 euro, e un alimentatore, se ti prendi di quelli switch piccolini da 2-3 ampere, visto che non serve, peraltro lo paghi intorno ai 20-25 euro, e quindi la cifra si dovrebbe aggirare intorno ai 100, massimo 110 euro. Vabbè, è una stazione base, ma base nel senso base, non base grande, no, base perché è proprio all'inizio, là, alle basi di una stazione. Sì, ma io invece dare degli indirizzi, dove andare a poterli comprare, dargli delle dritte più che venderli, perché uno potrebbe anche cominciare da una bella stazione, capito? Chi lo sa, perché tante volte no, spendi, compri questo, compri l'altro, poi alla fine hai buttato solo un soldo, quando tu potresti avere un apparecchio unico, un rosmetro, un'antenna, un alimentatore come si deve, e stai andando. Sì, ma intanto l'antenna gliela rosmettiamo nel momento in cui andiamo a piazzargli la stazione, ma a prescindere, noi italiani, sardi italiani, siamo fatti così, ci mettiamo nella condizione, come diceva un mio collega argentino, dice voi andate a fare una partita di calcetto o di qualsiasi altro sport, nel momento in cui vedete che vi piace, se non vi comprate il giorno dopo le scarpe di Del Piero, sembra che la vostra prestazione poi ne deficiti, cioè della serie o c'ho il top oppure non riesco a giocare. Io direi che per farsi venire la passione, o meglio, per portare o per far crescere la passione, o sentire se siamo appassionati di una cosa, basta anche una stazione base. È inutile partire dal top della gamma per poi dire a me non mi piace, quindi avere una cosa che ti è costata una barca di su. Invece così voglio la gente, perché dice guarda, per iniziare ti costa solamente al pari di 3 pizze, 3-4 pizze mangiate in pizzeria. Fai un attimino, la cinghia, con 100 euro riesce a iniziare a modulare. Io ti dico la verità, se io dovessi tornare indietro, Antu, avrei preferito comprare un solo apparecchio e averlo sempre, piuttosto che avere spesso milioni di attrezzatura. Hai ragione, ma questo è col senno di poi che lo dici. Quindi è normale che se una persona tu vedi che dopo che ha speso 100 euro, la passione gli cresce, prende quei 100 euro che ha speso e ne recupera magari 70, perché se lo rivende magari a qualcuno che sta iniziando. E così può iniziare a comprarsi qualcosa di serio. E il massimo che ha perso sono 30 euro, capito? cioè bisogna anche inculcare alle persone questo tipo di ragionamento, inutile secondo me partire dal top, sarebbe bello però, tu te la senti di a uno di consigliarti di acquistarsi un apparato di un certo tipo e poi magari questo qua dopo due giorni gli passa la voce, o non si trova bene, oppure non ha la passione della radio, non sa modulare. Non è, guarda che non è facile modulare, quante persone metti di fronte all'apparato, al baracchino e schiacciano le vignette, si dimenticano di tutto. Ma non riescono proprio a parlare, il micropanico tuo, come? Il panico del microfono. Ce n'è tanta di gente che non riesce a parlare. Io puoi dire qualche amico che qualche volta l'ho voluto, lo volevo far parlare, prendeva il microfono in mano e diceva no, che mi stavo sovramodulando. No, stavo un attimino, scusate, stavo un attimino facendo qua. No, sovramodulando, no, guardate che ho schiacciato appena. A me sovramodulando? Un attimino, che se no sono incasinato, No, non ti preoccupare Luca, ho visto solamente la portantina. Stai arrivando con un Santiago di nuovo, stai arrivando forte, è una radio Super 5, bella amplificata, una bomba. E io quanto ti arrivo? Ma è abbastanza il segnale, la potenza tua tutta. Poi il segnale di 9, la potenza della cosa, la modulazione 5, ottimo, la radio mi piace, squillante, bella, tu già stai arrivando a Santiago di 9.20 e radio 5. Ma dove sei? In che via sei? No, scusami Gianni, Santiago, la tua potenza? Negativo, non ho copiato, perdonami. Dico, sto dicendo, hai passato potenza tu, da parte tua? Passato potenza? E tu hai passato la potenza? No, negativo, perché? No, mi stai arrivando a Santiago di 7.5, una cosa del genere. 7.5 perché succede questo, questa antenna qua in via degli astronauti che è ancora pigiata, è tutta piegata, a seconda di come è messa, non ha, come si dice, la polarizzazione verticale è diventata una polarizzazione orizzontale e adesso a seconda di come si è spostata col vento non sta puntando verso Porto Torres, capito? Ok, dai, scusate un attimino, mi devo aspettare 10 minuti, un attimino, riprendi Gianni? Ma è strano però la tocca, è quasi arrivo 9.30, a te 9.20, boh, sei più vicino. Sì, ma lui è più in alto, io qualche palazzo ce l'ho di fronte, poi ti ho detto, è dato dal fatto che questa antenna non è messa bene, capito? Al pari di come non trasmetto bene, non ricevo neanche bene. Ma comunque non mi sovramodulava. No, ci mancherebbe. E io anche io 9.30, va un po', poi 9.5, 9.10. Quindi è capito, è così. Poi bisogna vedere se... Oh, non lo so. Ti arrivo io? Capito, perché... No. Mi ha trovato l'amplificatore, mi. C'ho 747, mi, eh? E ti fai il comune dopo, eh? Hai capito. Ehi, domani. C'è qualcuno mi sta mettendo la porta? Tu stai arrivando un pochettino di più di già. Poi sono più vicino, da cerca. No, tu sei sempre bocca, ma c'è. Ah, ti volevo chiedere una cosa, anzi ti dovevo dire una cosa, Luca. Dimmi. Omosessuale. Sì, amore, facciami tutto. Ma io l'ho attaccato, non l'ho attaccato. Adesso ho attaccato, poco fa l'ho attaccato. Raccontami, ma la stai facendo funzionare quella cosa? Io? Sì. Ma non se ne sente? Sì. Sì, anche... sta ascoltando anche quel link, ma mi pare che entrano i bocchi voci, se lo perdessi gli appuntamenti per entrare in altre frequenze, non lo utilizzano molto, per l'inchiodissarsi. Ma è così che bisogna usarlo. Quello che viene chiamato appunto il... se lascia perdere il link, ma... la frequenza monitor serve esclusivamente per parlare al pari di un citofono, invece infatti viene chiamato così, per poi andare su altre frequenze, alte o basse che siano, più che altro di solito sono basse in HF, capito? Ma veniva usato prima, l'altro veniva usato anche per fare ruota proprio, io ascoltavo, stavano anche a ore parlando. Questo diversamente non è. E poi te l'ho detto, volevo dare un po' di frequenze perché non ne ho capito, non ne ho di quelle di quelle di Sassari, anche il link nazionale, non me le ricordo più, le ho date tutte quante, ma persona e poi le telefonate, me le ha fatte più avere, quindi non c'ho più nulla. No, ma è semplice, sono semplici da trovare, come SWL, basta che fai una ricerca su internet, le frequenze di ricezione ci sono tutte. Vabbè, che vado lì allora, vado lì a me la cerco, l'ho fatto prima. Sentito qualcuno vuole entrare? Un cavallo era rimasto qua, certo, stavo accennando, mi stavo ascoltando, c'era anche poco fa. Ho detto, ma la frequenza di Rai Genova, no? Tutti i punti, se non c'era l'antenna, cosa ricevi? Perché è un disastro totale. E comunque, quel... Ciao Claudio, che sei tu. E c'ha una... Se la porti alla GPC ti danno l'interfaccia per attaccarci il PL, capito? E lo puoi interlacciare con un PL, allora ricevi bene. Sì, no. E già ce l'ho io le cose per attaccare il PL. Ma se non è venuta già, ma ne abbiamo già parlato. Hai pienamente ragione. 525 si usava per fare questo anche locale. Adesso hanno cambiato, quindi non c'è più nessuno. Io ce l'ho tutta la sera accesa, non si è sentito uno chiamare 525. 250, sempre subito 30 orario, 73, tutti e basta. Poi già 430 100 è il ponte che si usa in HF e 430 075 è quello che c'è all'imbara. Non ci parla mai nessuno. Gli altri ponti sono Montorraso, Agoristano, eccetera, quindi se non c'è l'antenna non ricevi, ma lascia perdere. Dai, divertitevi, sono qua che vi ascolto, mi sto guardando l'Inter, Luca, l'Inter ha già preso in mezz'ora due torrette per la Fiorentina, ma torrette? Due? Torrette, due pere, 2-0 state perdendo in mezz'ora. 2-0? Ma la vince 1-0 prima? Secondo. Ah, vabbè, c'è il problema che si gioca sempre onestamente, non rubano come fa Juventus, Claudio, lo sai, no? Allora, ma fai un tenetevo lì, certo, la Juve ha le possibilità, si sa, pagando, l'Inter no, l'Inter gioca, se perde, se vince, allora c'è la Juventus, li perdi, o li vinci, sempre per i guglioni, ma la partita, tu sei stato l'unico a dirlo, che è meritato a Roma, l'unico, tutti gli altri hanno detto di no, tutti gli altri, tutti quelli che conosco io, tutti gli juventini, hanno detto non meritava di perdere la Juventus. Sì, perché non sono interista come sei tu di Juventino, capo di Bonietta, se io dico sono Juventino, grosso sportivo, l'avevo vinto perché è meritato il vice, l'Inter non sta toccando palla, cioè sta prendendo tanti di quei contropiedi che non viene mai a dirlo, si sentirà la mancanza di Milito, si sentirà la mancanza dell'atmosfera calcistica che c'è in questo periodo, però lascia perdere la Juve gioca a pallone, ma lo sta dimostrando. Se poi c'è il soldo per fare gli altri, abbiamo sono carte che a noi ci interessano. Avanti Antonio. Ho approfittato un attimino, stavate parlando di queste cose e mi stavo bevendo un bicchiere d'acqua. No, c'è Luca e anti Juventus, ce l'ha sempre con la Juve, che lo stavo rispondendo. Va bene, capito già, non vuoi nulla, credimi, non c'è niente, io ho un quarto antenne, la paura, non sento niente, tutto pace, tutto morto, sembra che la situazione sia precipitata in pochissimo tempo. Tengo una curiosità, ma non si è sentito ancora Galli? Galli, chi è? Galli? Gallimberto. Metto il circuito che entra. Guarda, io allora questa mi pare che sia la seconda volta che ovviamente ce l'ha fatta. Avevo già la radio dalla prima sessione che c'è stata, ci ha venduto tutto, adesso non so che cosa c'abbia, ma credo che non abbia niente. Domani ci passo un attimino i laboratori. No, mi sembra assurdo, vabbè. Io ti dico la verità, io sono non sto entrando perché mi sono reso conto che nel momento in cui non sei nella condizione di fare fare attività è meglio non farne. Perché? Perché crei. Ma gli uomini già che stanno a mangiare. Ma no, attenzione, non perché si scherza, non è quello che mi crea problemi. Perché proprio non sei di aiuto alla riuscita delle cose, che si fa in contest e fai tutta una serie di cose. Quindi adesso come mi trasferirò, mi metterò nella condizione di rimettermi alla stazione in una certa condizione dove avrò tre radio e basta, una HF, una radio CB e una VUHF, che possa essere anche un veicolare senza nessun problema, tre antenne sul tetto e vai che ce n'è, e così me la farò in via Rockefeller, finito. Quindi due HF, due paracchini e due VHF, finito. Nient'altro, nessun altro tra i goccio. Certo, io ti ho dato il mio parere e continuo a redatto. Le baracchini non fa niente, perché i baracchini non li ho più, li ho tutti. Muovo con la stessa radio che faccio, ok. Vabbè, io ne ho mai più, l'ho verificata la 27, che è 4.40, tu ci vai a prendere quello che mi hai detto, io l'ho usato, userai quella e la userai anche nella 27. Tanto è inutile fare a mettere tante cose per poi non fare assolutamente niente. No, io te lo dico con molta sincerità, non me ne frega più niente. Io se sento qualcuno che mi chiama rispondo, non vado a cercarmi nessun QSO proprio per ripicca contro quello che hanno fatto, non posso, lo ribadisco, non me ne frega niente se mi stanno ascoltando, o gli avete avuto alcune telefonate dove ho ribadito il mio parere. E quello che penso, come ho sempre detto, non ho paura a nessuno, e se devo mandare a cavare qualcuno, che sia in V, che sia in U, che sia in HF, continuo a farlo come l'ho sempre fatto. Quindi è buono che metto le poche parole, sono tutti liberi di fare quello che vogliono, io faccio radio come mi pare mi piace, punto. Questo non c'è assolutamente in disaccordo, diciamo, ma poi uno può essere d'accordo o meno, tu hai espresso il tuo disaccordo ed è giusto che l'abbia fatto, perché da persona libera di fare radio o meno a modo tuo. Però vedi, già quel modello che sto prendendo io per sulla 27 non va benissimo, in AM a quanto sono non è una grande radio rispetto anche a un 140. Non pensare, tu scusa per Gianluca, non pensare, perché io ho riuscito ad avere una buona taratura, bisogna darle quei ritocchi e lasciarlo così, io ci modulavo con quello e non ce n'erano problemi. È una buonissima radio, una bellissima radio, ha tutto quello che serve per garantirti una buona emissione, secondo me, non pensare che non vada bene. Va regolato, va tarato, ma una volta che hai quei parametri giusti, li ritocchi solo quando ti devi spostare in modo laterale, quindi aumenterai e devi aumentare o a inserire solo il processore nel momento in cui parli nella 27 o abbassi il micchiere o disinserisci il processore, questo è a tuo favore o a sfavore, quindi non ci sono problemi, vai tranquillo che con quello riesci a fare tutto e di più. No, ma è così, no? La realtà è quella, io continuo a ribadire che non ho ragione ma neanche torto, le mie opinioni sono quelle di non attaccare nessuno, ho detto, ho espresso il mio parere e basta, ma queste cose sono già viste, vissute, eccetera eccetera, negli anni passati con tutti questi cacchio di intrugli, e poi si sono tutti afferrati, si sono tutti denunziati e quindi alla fine a me non mi interessa niente. Quella è una cosa Cesar, gestita da Cesar, io non sono Cesar, sono Ari, e me ne sto per i cazzi miei, a chi piace piace, a chi non piace si arrangia. Avanti lo più brutto. Andato a mangiare, buonasera. Chi è? Con chi abbiamo l'onore di parlare? Buonasera Claudio, Fabrizio, no, è andato a mangiare, vai. Andato a mangiare, ciao Fabrizio, buonasera. voce che hai, Fabrizio. Cosa ti è successo? Non è lui. Che tu dice che cazzo è considerata la voce? Già lo so, ma tu stai venendo a dirmelo, madonna. Stavo calcolando, sento la voce di Claudio, infatti era salito, cazzo, non sto più sentendo, infatti ho fatto una salutare per quello, non ti sento più neanche nella nuova frequenza monitor, è salito, infatti ho chiesto, ma che fine ha fatto Claudio? No, si è venduto tutto, ma mi sembra strano. Prima di far salire a Claudio Spagnolo, lo so chi ci vuole, non volevo meritare, si è ritirato perché non ha più niente da che. A che spartire con nessuno, ma io grazie a Dio, prima che mi facciano morire, guarda, lo sai quante persone devono morire prima di me. A quanto arriva il guglione che la frequenza monitor, Fabri. Ah, tu lo sai, io non sei niente di tutto ciò. Tu lo sai, ma lo sacco è lungo e largo, poi non me ne frega niente di tutto quello che fanno, che chiama solo per genere. Il nascosto, le cose belle, le cose brutte, poi basta, non me ne frega niente, capito? Vabbè, la riprende che sto facendo cosa al computer e vi nascosto. Fabri, è stato un vero piacere sentirti, davvero. Mi raccomando, ci sentiamo alle prossimine. Chi sono Maurizio Macchierato? Un uomo di garanzia, di giurando essere WL del nord di Sardegna, ragazzi. Tutti i ragazzi di tutti e di più conosci. Per carità, vabbè, tanto io ragiono io, poi tu sei ragionatore e ti auguro di sapere, capire, vedere tutto quello che ho visto io in tutti questi anni, perché alla fin fine poi quando veramente tocchi con mano, come ne avevamo già parlato, che tutto sembrava forse la rosa e fiori, alla fine quando tocchi con mano ti accorgi che non è esattamente così. Io già dal primo momento che tu sei entrato, che hai iniziato con questo gommino, io ho trovato un cazzo che mi piace, se ho la voglia di fare l'acqua la posso fare anche con un portatile, non c'è scritto da nessuna parte che devo montare 10 direttive perché Claudio non mi sente, o perché Giovanni non mi sente, o perché Peppino non mi sente, sono cazzi tuoi, a me cosa me ne butti, quindi tutte queste cose a me mi hanno sempre preso male, e alla fine per non bisticciare con nessuno ho iniziato piano piano a attaccarmi, tutto qua. No, vabbè, quello lì anzi, credo che poi alla fine sia un modo di scherzare, però allo stesso tempo di incentivare la persona al fine di migliorare. Io capisco e assolutamente, guarda, credimi, è l'ultima delle cose che mi farebbe offendere, anche perché sai benissimo che lo scherzo è tutta una serie di cose. Quando nello scherzo ci vedo la cattiveria, allora, perché io vozzo Marco, non gioco Marco, la differenza è quella. Quindi se faccio lo scemo lo faccio io, non me lo fanno fare, capito? Io condivido perfettamente le tue parole, però a me mi prende male, quindi quando una persona è in entri, come è sempre stato nell'arco di tutti questi anni, degli anziani o non anziani, in tutti i relatori non ho niente con nessuno, per carità, però quando uno inizia a fare radio ha la possibilità di farci sentire con una piccola radio, e cazzo, devi mettere quell'antenna lì, perché diciamo che vuoi andare, cosa vuoi fare, e rimani indietro, ma tu cosa ne sai, cazzo mi, ma cosa ne sai, ma cosa ti metto a te, tu pensa a fare quello che ti serve, quello che voglio rifare tu, degli altri sbatti ti andate a mettere le balle, cosa te ne frega? Ci sono cose che a te non hanno detto, non hanno detto a me, quindi un po' mi ha girato le balle, qualcuno mi ha mandato a cagare in sordina, però sono cose che a me non mi piacciono. Quando uno entra in radio entra con quello che può entrare al momento e poi magari più avanti decide di fare una cosa più grande o una cosa più piccola, però non sono problemi tuoi di quello che devo fare io, punto. Però anche questo, con cosa stai modulando? Cosa c'è? Un turner per caso? Io? No, io sto usando col 440 e l'MC60. Hai spinto forte quel microfono? E la radio che hai spinta tu. Questo è l'unica che mi era rimasta, l'altra l'avevo venduta a Sano, ne avevo due. Questa è quella che mi sono preparato per me, cioè LC, tutta maletta. E quindi figurati, c'è il Mickey Game che non è neanche a uno, è proprio quasi a zero, se lo sollevo inizia a partire per i fatti suoi. E basta, è tutto qua, non ti ho capito. Poi ti ripeto, io condivido tutto, per carità, le mie esperienze mai sono fatte, volevo se le facciano anche gli altri, però ormai queste cose di cambiare, fare quando una cosa sta andando bene ed è inserita da 40 anni, a me mi si gioca e basta, e poi ripeto. Ognuno di voi fare quello che vuole. Ad esempio l'altro giorno l'ho sentito uno, sembrava stava a lavorare solo, non si fa fare nulla. Ah sì, va bene, no, aspetta, tanto metto in U e non c'è la corrispondente. Metto in U, giro, non c'è la corrispondente. Metto dall'altra parte, non c'è la corrispondente. Io so più o meno dove si spostano, dove fanno full duplex. Adesso poi alla fine avevo scoperto che uno stava parlando in analogico, l'altro stava parlando in digitale. Ma me la cagare. Sono tutte cose sperimentali che hanno una durata per breve per poi ritornare, capito, all'analogica, né più nemmeno quando, come quando si modula, si voleva, te l'ho detto, l'orologio che spaccasse il culo al secondo per poi ritornare al piacere dell'orologio analogico, magari carica manuale che ritardava 3 minuti al mese. Così si arriva al topo per poi ritornare indietro, se uno è un vero radioamatore, poi se vuole telefonarsi è un'altra cosa. No, non mi contesto, tanto ti ripeto, oggi tu sei arrivato anche tu nel mondo radioamatoriale, quindi capirai e saprai come funziona, perché sei già abbastanza attivo, anche se veramente la gente pensa che uno non ascolta, non faccia, non si muova, ma pensano male, no? Perché io durante il giorno ho tutte le radio impossibili, se non ce la faccio con una prendo anche i veicolari, ne metto sulla sedia, però devo seguire tutto quando sono gli spostamenti e mi accorgo di quello che sta succedendo, capito? Perché a me la settimana scorsa, quando ho iniziato questa rottura di palle, no? Io ti ripeto, attenzione, per chi sta ascoltando, in fase sperimentale, io sono d'accordissimo, ognuno può fare quello che vuole, poi posso condividere parole favorevoli o sfavorevoli, cioè non c'entra niente, questo è un mio pensiero di fare l'altro. Te lo dico, cazzo, porca puttana, non c'è stato uno sceleniato di entrare al 525 e dire signori, SWL, tutti quelli che state ascoltando la frequenza lunga da 20 anni ascoltate, sappiate che da oggi questa frequenza è un po' più libera perché stiamo facendo una fase sperimentale in un'altra frequenza che è questa, se volete potete, nulla, niente, mi ha portato i 50 viva, a dirmi cosa è successo, ma non c'è più nessuno, ma come mai, ma qui, ma là, certo, ma io lo posso rispondere. Cosa vuoi che te ne dica? Aspetta che stiamo facendo pagare troppo di parcheggio a Gianni, che poi si addormenta. Andiamo a mangiare, a tenerlo. Ah, no, allora evidentemente mi ha sovramodulato, perché già sapevo che stavo aspettando la pizza. A faccia che gliela diano, ui ui. Luca, ci sei? Parla bene, lo sai che sono sempre all'agguato. All'agguato, mi sì, uia. La pizza con le cipolle, guarda, è vero che io ho già mangiato stufato lì a sorso e quindi saranno fuochi d'artificio, ma tu non sarai da meno. Polle e tonno, e cipolle. Ho già mangiato, dai, ho dato un pezzo a Marco perché non avevo voglia. E oggi non avevo gana di mangiare. Ho preferito mangiarmi due bei mandarini, ma mandarini baro, perché a me mandaranci non mi piace, no. Mandarini, devo sentire proprio il sapore del mandarino. Ma no, le clementine a me piacciono. Scusate un attimino, riprendete, devo mandare un messaggio, no? C'è una mano occupata, no? No, a me questi incroci non piacciono, piacciono solo i mandarini e le arancia. Non mi piacciono le arance a vaniglia. Che schifo, cazzo, arance a vaniglia, mamma mia, cazzo. L'ho mangiato una volta a gemmai con tu, e grazie per 3 mesi. No, io ho mangiato una bella trancia di tonno, già. Tonno, fatto le trance di tonno al forno, vino bianco, pomodorini, ti dico che aglio prezzemolo, ti dico che sto benissimo, roba leggera, messa lattina, adesso mi appena viene l'aria, c'è l'altra trancia, c'è il forno, e se la mangio anche lì. Niente, nulla, sto parlando con Antonio appunto di quello che anche un po' io penso che sicuramente qualche altro condivide assieme a me, ma senza offendere nessuno, per carità, però dico cazzo, non c'è stato nessuno di tutti quelli che hanno fatto gli esperimenti eccetera, che la 525 ha avvisato gli SWPO, visto che sono tutti in ascolto, e che ha messo in chiaro la situazione, perché mi hanno telefonato in tantissimi, cosa è successo, nessuno parla più, ma come mai, ma qui, là, bim, bum, ba, cioè non devo essere io a spiegare le cose, arrangetevi. Vabbè, l'abbiamo chiesto a te perché sapevamo che tu eri addentrato in quelle frequenze, quindi a me mi è venuto spontaneo chiederlo a te perché so che tu fai ascolto, che parli, eccetera, eccetera. Quindi è per quello che te l'ho chiesto. No, già cerchi di capire, molto ce l'ha te, a me mi hanno telefonato, tu me l'hai chiesto con 27, io ti ho risposto, ma anche per tutti quelli della 27 che sono seguito più L, io l'ho detto qua, ma dico nessuno di loro si è preoccupato di entrare in quella frequenza monitor che abbiamo da 40 anni e dire signori belli, per chi sta ascoltando sono Tizio Caio Sempronio, sappiate che questa frequenza è un po' più libera, non c'è molto traffico perché stiamo facendo in via sperimentale un delettronove per quanto riguarda Marco Lì che ha in un'altra frequenza, qualcuno di loro se ne doveva occupare e dirlo a frequenza monitor, non essere io a dirlo a 27, perché tu me l'hai chiesto, ma molta gente mi ha telefonato e quindi gli ho risposto come ho risposto a te, né più né meno. Luca Rie, rimane sempre molto asciutto all'interno al tonno. Sì, lo devi bagnare con la vernaccia, con vino bianco qua. L'ho bagnato, però rimane sempre molto un bel caldoso, ma molto gustoso. Vabbè, sto pescando questa canana a proposito dei tonni. Io volevo andare ieri dopo pranzo, poi me ne bacio da ragazza perché ero stanco, dico la verità, ci volevo andare perché ho visto una bella giornata. Poi stamattina sono andato a fare un giro in moto e quindi ho lasciato perdere, sono passato a vedere dove pesco io, c'era gente, come al solito. Sono passato di 5 minuti, poi ci ho fatto un giro a promotore e me ne sono tornato. No, io sono visto stamattina, sono sceso da Giancarlo Massimiliano, che dovevano fare una cosa con un'antenna. Non sapevo dove era, quindi ho accompagnato una mattina anche lo stesso, stavo lavorando, sono uscito presto, sono rientrato verso le 10:30, poi sono sceso con Massimiliano da Giampaolo, ieri lo stesso stavo lavorando, quindi insomma, poi di pomeriggio già, guarda io c'ho il parco antenne che è tutto basso, dico parco antenne, le due direttive che ho montato. Il rotore è ancora qua in stanza, devo portarlo su, c'è già il master attaccato per tirare su la direttiva e finalmente farla ruotare come deve essere, ma poi dopo pago, un altro rientro dal lavoro e ne basso la gana, capito? Non ne ho proprio voglia di stare appeso lì e là, perché non sei stanco, sei tutta la mattina in giro, in macchina, a destra, a sinistra, poi arrivi la sera e hai questo morbo, no, che ti... ma vaffanculo, non vado all'estate, quando mi viene la voglia salgo e la tiro su. Anche io devo fare quel lavoro, l'antenna la devo abbassare e rimetterli col radiale perché è un peccato, perché mi è caduto, è nuovo, lucido. Poi ritornato, tu non ce n'è problema, detto, se te ne manca qualcuno, il radiale nuovo, in alluminio, ce ne ho anch'io. Ma questi li avevamo modificati, Claudio, li avevamo fatto il buco con bullone passante, capito? No, ho capito. Il califfo. Era da? Aspetta, mi hanno mandato un messaggio, inerente sempre a questa cosa. Kappa. Vabbè. Ma è anche una cosa molto bella perché un SWVL che non si comunque apprezzo il messaggio, perché insomma capisco che non ce l'avete con me, però sapete tutti, mi conoscete tutti, io non ho bene la lingua, quindi non è perché sono rimatore, non devo attaccare rimatori. Assolutamente non esiste la parte mia, ma proprio non esiste. Loro hanno sempre attaccato a me, quindi io quando necessito attacco a loro. Ti ringrazio comunque per il messaggio, SWL Antonio, non so chi sei, comunque ti ringrazio. Già l'ho già letto, non c'è problema. Cos'è, messaggi d'amore ti stanno mandando? No, assolutamente. Un SWL che mi ha sentito dire queste cose e mi ha detto sei... mi congratulo con te perché sei l'unico radioamatore che attacca gli radioamatori, ma nel condividere ciò che hai detto sono pienamente solidale e capisco che non tutte le ciambelle escono col buco. E c'è un doppio di Antonio. Pappala, e chi è Antonio? Non lo so lui. Antonio c'è il problema. Vabbè. Comunque qualcuno che fa ascolto, sempre. Vabbè. No, è che poco traffico c'è nelle frequenze radioamatoriali, poco traffico. Io non prendo le cose, non prendo le bande laterali, però tutto il resto va bene. E anche Clef è il tuo ricevitore, o è solo VU? No, è VU e basta. Già. Il discorso VU te l'ho già detto. C'è quella poca cosa che era rimasta, che è la frequenza monitor, qualche spostamento nei ponti, che se non hai l'antenna è molto difficile che arrivino perché sono tutti in avaria, antenne tutte rotte, piene d'acqua, cavi pieni d'acqua in corso, quindi lascia aperto. L'attività c'è, senza ombra di dubbio, l'attività in 40, c'è 24 ore su 24, in 20 metri, 15 metri, in 10 metri, quindi c'è, per carità, non voglio, l'unica cosa che non c'è è per l'attività in UHF, in UHF che è molto molto molto lenta in questo periodo, mentre quel periodo io non stavo entrando qua al 27 avevo anche staccato il cavo dell'antenna, non so, l'ho dovuto riattaccare perché alla fine con chi parli, lì non c'è più nessuno, a me fare attività in HF poco mi piace perché questi locali me ne faccio ben poche, ma anche non conosco il singolo, quindi entro e saluto, ma rimango pochissimo, ma faccio solo chiamate di ex, metto a log quei country che non ho, che mi interessa più di fare questo in HF, come fanno naturalmente tutti i radioamatori. E perciò ho detto, mi riattacco l'antenna e cuore non mente, il buon Gianni Doppio Room ha sempre detto quello e quello è, e non si discute. Che questo qua promo non lo credo. O forse mi splatter, non lo so. Come stai già promo 2-3-4? E che ne so? Lo sentivo mentre parlavi tu, Patrugo. Lo so, amici, anche già. Io, tu squasi. Adesso sei staccato, sei 9.20 pieno, 9.20 pieno, 9.25 diciamo, quando sei inserito sei oltre il 30. Hola, 1-2-3-4, prova radio, 1-2-3-4, hola, 1-2-3. Mi sento. È stato lì da Gigiamaddo in internet su Facebook che non mi ha risposto, ma non mi ha visto. Non lo so perché sono entrato in logia, Vito, do la spazzolata e poi chiudo subito. Claudio, ci aggiorniamo domani sera. Va bene, non ti preoccupare, ti ho mandato anche un messaggio, ero preoccupato perché non riuscivo a mettermi in contatto oggi con te, non riuscivo a mettermi in contatto, ti ho mandato, ho fatto un sacco di chiamate, ma cosa gli è successo a Franco? Devo parlare, Giulio. Ok, ascolta, dammi un controllo di questa radio, come sto uscendo. Ti dico solo, ciao, non scendo. Ti dico solo che mi stai sfasciando tutto. Se 9 più 30 vuol dire 5, ma 5 vuol dire 5 più 5. Capo a capo. No, però perché ho detto stamattina, Massimiliano? Cosa ti ho detto stamattina? Ma chi è? Franco California. Allora. Ciao Fra, scusate un attimino, il Grotte, tutto bene? Ok, va. Antonio, buonasera, comunque mi ha ascoltato anche a te. No, sono entrato a provare questa radio, avevo la strada andata, se funzionava bene, capito? Ok, vai Claudio. Ma chi è che aveva lanciato? Massimiliano, vai. No, stavo dicendo, sì, me l'ha detto stamattina Claudio e Franco, ma tu hai fatto un conto da Franco, cosa ti può aspettare? Ah, va. Quanti anni ce l'hai col baracchino? Questo non è quello che ce l'avevo io la 48, questo non era 68 in tutto. È stato parecchio, già, più di quando aveva tutto, mi pare che sono 5 o 6 anni fa. Tre parlate due, così resta fra? Già, già, quando aveva dato tu, mi pare 5 o 6 anni fa, è stato parecchio. Figurati, io c'avevo 68, ma ho comprato 48 e con la ruota a te. E forse più di 6 anni fa. E funziona sempre bene, o quanto? No, non c'è niente, mi c'è il microfono e buh. Ma in palestra sempre ci stai andando. Palestra ci sto andando. Sto facendo le preventive per lavoro adesso, ma tu non c'ho tempo, capito? Oh, claro, l'ultima volta l'ho visto a Brico, come non lo stavo riconoscendo, dalla voce l'ho riconosciuto. Che cosa sei, ingrossato? No, tutto impostato, ormai è... da quando ha fatto palestra. Ma gli abbiamo sbrazzato, California, no, ormai è un animale da traino, capito, di quelli che va bene a abbordare, va bene a fare uscite di un certo tipo, secondo me. Un bel ricco, no? Ma c'è che ti rivaria. Non siamo... Dai, non nel senso che da portare in giro per discoteche. Allora. Ah, ecco, la stai dicendo. Non è fisico, sono magro io. Almeno sei magro, guarda Claudio che c'ha la tartaruga di traverso però. Ma c'è che vanno già con i fritti, burro. E allora incarnamene un paio, però belli croccanti, mi. Sì, vabbè, quando capita l'occasione. Ma a volte, quando è che abbiamo provato al pugnometro? Davvero, c'ha il pugno, c'ha la castagna, un po' lento, ma già ce l'ha. Il pugno di vigia, poi la tartaruga viene in duce, più grosso di me. No, io vado giù il bittone. Cazzo di Dio, ma come facciamo? Ma la cosa più bella è mangiare e trombare, tu. Beh, lo so, ma lo sai che cosa? Che mangiando c'è la malattia del vitello, che cresce la pancia e si riduce. Sì, la potete dirmi. A me c'è una cosa, che non è a uccello, non è a... Cioè, è vero anche quello. Intanto, una volta che togli 3-4 centimetri, sempre 35 ce ne sono. Ma io non mi basta, ma a me mi basta quello che ho io. Ah, ma capito come trovano i cinesi, eh? Con 8 cm di uccello, e noi perché non ci riusciamo? Lo so, già c'hai ragione. Dei cinesi. Infatti l'unica cosa che non portano qua, già l'hai visto, sono i preservativi. E non li usano loro? No, perché usano i guanti da cucina, direttamente. Il giorno che sono eccitati il pollice, se no usano sempre il mignolo. Eugenio, ha già mangiato di sé? Ho spiegato come ho fatto, un palacchino sì. Allora, poi dice la creuta che tutti i cinesi sono andati a comprarsi una gascetta di banani. YouTube, no, proprio dei diventi cinesi, e a volte c'è qualche cosettina spinta, come fanno a ridere, ma mi fanno ridere veramente, cazzissimo, Maria Gatti. E dillo là che più guardi i pornazzi. Allora, il cinesino è anche simpatica, mentre fa sesso, no? Ma il maschio del cinese fa veramente schifo, che... Non l'ho mai visto, boh. Non sapevo che i cinesi erano minchi. Il cinese non è proprio. Il cinese in elezione è come un... Ma io ho preso un ragazzino di 10 anni normale. Pari niente. Vabbè, i niente sono fantomati già. Ma il cinese è proprio... La realtà è quella, veramente. E vedi, qua si parla come si mangia, ci si diverte, sono contento. E Eugenio, facci sentire questa radio, che c'è una similare, non dorme. Quando deve sopravvivere i canali, però. Sì, ma similare, se non l'avevo spiegato, quello quando la gente rimane a 26, te lo ricordi? No, oh, già glielo ho spiegato come fare per andare in 27. Quel baracchino è così, perché non capisco perché, ti ricordi, per noi era un problema, invece quel grande tecnico ha detto che la voce è un po' complicata con la radio. Con la tastiera, se c'è, vedi la tastiera, però. Ma c'è lo zoccolo che c'è. Aspetta, esatto. Io, grosso, riprendi. Yeah. cosa ho smesso, l'ho provato io all'ora di pranzo, saliva e come. Non mi ricordo manco io, boh, come se non c'è una funzione da toccare. Ma aspetta, ma il refrigerino è tutto aperto, sì. Allora, il refrigerino qual è? Qual è quello? Allora, io quello c'è scritto refrigerino. Sì, sì, sì, è tutto aperto. Credo che sia sì, è tutto aperto. È chiaro, prova a dare due colpettine sullo smicchio a vedere se sale. No. Vedere, 1, 2, 3, 4. No, ma ci mi faccia proprio una funzione, perché quello c'è anche, ti misura anche il stazionale, così è. No, che non segna il segnale. No, non si muove l'ago per niente. Niente, c'è, non fa niente. No, no, no, no, allora c'è qualche funzione schiacciata lì. Perché l'ago si deve muovere per forza. E cazzo, c'è un'unica attaccata quella di pranzo. Stavo andando tranquillamente bene. Adesso io non me la ricordo questa funzione qua. E blu. Neanche io, sinceramente. Guarda che c'è scritto NL, prova a pigiare quello. È il filtro qua. C'è una bella radio. Ah, cazzo, okay, funziona bene con la radio, non stai scherzando. E buona buona più 3 chivi, giù giù. Funziona, funziona, ma va bene anche con il mio BP5, è bella corposa la modulazione, mi piace. No, c'è una funzione, l'ho fatto anche a me, ho detto boh, ma non è una cosa mi sento, c'è una funzione. Quindi non c'è anche l'osmetro incorporato. Insomma devo faccio le stazionarie, mi sbaglia, non vorrei sbagliare, boh. Dove c'è scritto SWR? C'è scritto qualcosa SWR da qualche parte? Non intendo più che manco, ma è tu? Tu, manco io. Sì. Ha schiacciato il pulsante sbagliato. Collegata, c'era. Sicuramente, cos'è Giofra? Cosa hai detto fra? Ho detto l'antenna collegata, c'era. Ma quello è, se tocchi la tastiera, se ne va di nuovo a 26, capito? Quindi devi riportarlo a, in frequenza 27 e poi spostare lo slider sull'ultimo decimale e lei cammina a passi di 5 come tutti i baracchini. Se ha toccato qualcosa se ne è andato di nuovo a 26, quindi ragione a tutti. No, sono di nuovo qua, dai. Ho detto, c'è un tattino dove c'è scritto SWR nella tastiera? SWR, no. No, no, no, no, no. SHFO. Nel display, leggi qualcosa nel display dove c'è la frequenza, cosa c'è scritto? Hai delle voci inserite, cosa c'è scritto? C'è scritto call, call, scritto così, poi c'è call. E a fianco ANL e sotto Roger Bittu che lo vuole fare, aspetta. No, sono stato il Bittu che non l'ha fatto io. Prova a schiacciare Cal. E qual è di questi tasti Cal? Senti, leggi, mi hai scritto Cal. Ma non c'è scritto, se no lì ci arrivo anch'io, so leggere, però c'è scritto, Cal non c'è scritto. C'è NLNBANL, poi c'è a fianco Roger Bittu, poi c'è Meter, sotto c'è Split, HLPRG, SHF, MEM, Memoria, MAN, MAN, e poi c'è Enter. Di solito c'è CAL1, ed è quello lì che bisogna schiacciare. Quale? CAL, c'è scritto CAL1. Non ce l'ha lui come quella voce sulla tastiera. Boh, dovrebbe essere metter. Boh. C'è una funzione comunque oggi che praticamente non fa muovere lo smitter. L'aveva fatto anche a me. Sai come si scrive Claudio in inglese one, il numero uno, one. Come? E quindi se fai tutto quanto quello che c'era scritto? Calone. Calone, che ti vedi? Eugenio, ma non è che hai inserito la colonnina con quello spinotto che ti ho detto, no? No, non ne ho con linea esterna, non ne ho. Ma si mi va, se qua che c'è almeno la voce, è un problema di collo, di strumento, niente di particolare, capite? Le fisce, buh. Guarda, che ne vuole, che ne vuole, lui ti rinvolta, intanto ce l'ho già detto. Non è sentito, sì. Ho sentito, ho sentito. La pagava. Ma comunque, la radio, boh, io ti ascolto bene. Ma tu, come l'ascolti? No, qua sta arrivando benissimo, assolutamente. Ma infatti io avrei lasciato tutto così. Esclusivamente è un problema di settaggio, non deve essere nient'altro. Cioè, ci deve essere qualcosa impostata che non gli fa salire lo smitter. Ma quando moduli tu, sale lo smitter o no? Sì, sì, quando modulo io, lo smitter sale alla grande. Sì. Lo arriva, dai, 9, quasi 9.30, diciamo, dai. Ma non è che ha qualcosa per ridurre la potenza in entrata, appunto? Come? Avete parlato in due. E ha un attenuatore, ATT, non è che c'è qualcosa in ATT? Prova a girare il RFG, a vedere che non ce l'ha fatta sbagliata, è uscita. E prova un attimo a girare davvero l'RFGain dall'altra parte, ma già se fosse stata a manetta l'RFGain avrebbe annullato anche la modulazione in entrata, nel senso non ci avrebbe sentito, capito? È possibile che ci sia boh, qualche attenuatore o qualcosa di strano? Pronto, è un problema di ricezione sullo smitter, cioè boh, non mi ricordo, me l'aveva fatto anche a me. Però non mi ricordo la funzione, quella c'è mettere oppure funziona, boh. C'è un menu molto, molto ristretto, che però se non stai attento ti inserisce delle cose che poi è un casino. Non lo so, lo dite qua non mi si muove. Non lo so, ma la frequenza com'è? 27.076 o 27.075? 75. 76. No, 27.075.0. Ok, e qual era la cosa per far muovere il cursore sotto il testino, te lo ricordi? Dove c'è scritto shift, cioè quella precettiva e te lo riporti a 75. Ma cosa devo schiacciare? Cos'è? Cos'è devo schiacciare? Dove c'è scan? Le due precettive? Quando tu ti puoi, no, prima ti puoi inserisci dove c'è scritto shift e poi con le due precettive ti sposti la freccetta da sotto due precettive. E dopo me lo capisci da fare in fretta, va? Preso, proprio ru. Non è canalizzato, Massimilia, sono frequenzive. Io, sono sintonia continua. Vabbè, come quello che avevo io, dai. Via. Vabbè, non è che siano semplici, quindi bisogna solo, vabbè, dargli un'occhiata, una volta che impari. Sì, ma quello non è un problema, già. Quello non è un problema, una volta che lo conosci, poi lo fa a memoria, là. Hai capito? Vediamo un po', oggi è spostato, ti sei. Sì, sì, 27, no, se, come schiaccio se ne va il 27.074, come mai? Devi togliere lo scanner, guarda c'è scritto scan, quando tu lo porti a 0.75 c'è scritto scan, schiacci quello lì e lo togli, e non lo proseguo andare sempre avanti e indietro, capito? Ah, ho capito, aspetta. Avanti qua. E vabbè, piano piano si fa. Sì, piano piano, già le scelte nei piedi. Poi nei 5 minuti, Luca, riprendi, mica c'è Bullone. Anzi, Bullone. Luca. Ecco. Pifo. Come viene su? Antonio, riprendi. Via. Ma Gianni, perché non c'è? Doppio ru. Sì che ci sono sempre io, sono sempre qua. Ma stavano chiamando a Franco, non a me. Forni everybody, ci si. Aprite. Mentira! Aldiere, no, c'è un po' vai. Sì, esiste subito. cazzo. Allora, oggi, una volta che tu inserisci la frequenza, guarda, c'è scritto proprio il tastino, scan. Schiacci quello e pattuglimi. Vabbè, se lui inserisce la frequenza, poi si parla. No, che mette due tastini. Lo scanner ha detto che mette due tastini. Guarda che lo scanner dovrebbe essere l'ultimo pulsante a sinistra in basso, credo, perché non lo ricordo. Davvero non se lo ricordi a me? Non è se, cosa fa vedere se è nata? Ci sei, mi senti? Ma certo ci sono. No, adesso lo smister, quando lo fa luglio sale poco, e invece quando farate lui sale come dovrebbe salire. Tu metti mai? È giusto così. Allora, quando io ero a casa, quello lì, io saliva 4-5, non di più. Quando parlava gli altri se ne andava perfetto. Ah, quindi è così, eh? Allora, come ti devo fare? Quando arrivo io? Adesso ci saltano l'ombra. Allora, già sta segnando giusto. Sta segnando giusto. Allora, tu adesso quella freccetta l'hai bloccata sotto il 7, giusto? Sì, sì, è sotto il 7. Adesso tu ti ricordi che se tu vai avanti con le due freccette, adesso se tu lo piaci una volta se ne va a 0,85, cioè canale 8, ma canale 11, schiacci un'altra volta canale 12, hai capito? Però ricordati che tu ogni volta che accetti quelle freccette che ti muovi da una frequenza, ti esce quella scritta scan. Ricordati di schiacciare ogni volta, di dire il canale che ti deve bloccare in un canale, schiacci quel pulsantino, se no le frequenze possono andare sempre avanti, hai capito? Un po' complicato, ma vabbè, già imparirò. Allora, poi è facile, guarda, ma... una volta che lo conosci è facile da usare. Tu intanto vedi adesso, una volta che lo spegni, lo riaccendi e parte da 26 quello. Vabbè, non subito, perché l'ho spento, l'ho riacceso e mi ha dato sempre la stessa frequenza. È positivo, comunque la bomboletta, già. Mamma la radio, sai, oggi. Ehi, al segnale com'è? Sto uscendo con pochi watt, Prova. Adesso sto dovrei uscire un 4-5 watt, credo. 5 a mezzo. 5 e mezzo, aspetta un attimo. E adesso è aumentato qualcosa, guarda un po'. Adesso 6-7. E dimmi che c'è un po' potente con la radio. Infatti sto uscendo con la minima. Allora oggi qua con la minima 6-9 a picchi di 9-10. Quando metti l'altra potenza, sì, 9-10 quasi a 20. Già va bene anche a 4 watt normale, dai. Però qua oggi metto a manetta. Ma questi sono i 4 watt, aspetta un attimo, adesso metto a manetta. Dai, adesso è a manetta. Adesso provo a manetta, dai. Senti qua, vai 9-9-5. Già va bene, c'è una bella radio. Ma sei riuscito a bloccarlo? Lascia la manetta oggi che si mette. Sì, no, ma va bene anche a 4 watt, no, va bene così, sto come la radio. Bene. Va bene, ma è più forte la manetta. Tu si dice attacchi qualche dialetto va ancora meno. No, non mi serve, sono arrivato, sono proprio arrivato. No, non sono arrivato, l'unica cosa, non so cosa dovresti fare, quando ti arriva quel palo, sollevare ancora la lampella, eppure vedrai che la musica cambia. Sì, vabbè, devo sollevare l'antenna, quello sì, e basta. Sì, vabbè, positivo, ok. Ma sì, fa la cortesia, dammi la frequenza del numero 12, del canale 12. 17-105. Ok, grazie, davvero, non me lo ricordavo. Canale 5, 27, non prendo la fede, te ne scrivi 215, canale importante, là, dove ti riporta 27015, 27075, 27105. RTL. 27465, canale 45. Ma lo stai memorizzando? Eh? Lo stai memorizzando? No, gli ho dato i canali che più o meno si può trovare a noi, una volta che avete, se ne scrive, capito? Sì, vabbè, 85, 105, 12, 015, tanto siamo sempre in occhio. Ho fatto, cioè perfetto, dai, memorizzati, alla grande. Positivo, poi quando ci torniamo a darti una tappa, ti do una cartella dove ci sono tutti i canali. Hai capito? I canali alfa, i canali bassi, i canali alti, così non ti perdi l'animo. se ci sono tutti i canali. Tutti i canali, tutte le frequenze ci sono, no? Il canale è frequenza, il canale è frequenza. Vabbè, tanto lì ne segna solo la frequenza, quindi i canali io glielo fitto a fianco appena. Sì, mi piace, è tutto illuminato, andare alla grande. Perfetto. Ma è normale che lo smitter deve salire qua a Santiago 5 quando schiaccio io? Sicuro di sì. Sì, anche io qua, Santiago 4 o 5 sale uno smitter. Anche quando ce l'avevo qua a casa. Vabbè, andare, perfetto. Non va a mettere a 10 watt, probabilmente quello che ti può segnare il watt. Il watt è uscito. Avete parlato in 10. Aspetta, oggi prova a metterlo con più watt, per vedere se sale di più lo smitter. Guardate che quello smitter lì segni i canali di watt è uscito. Sì, dai. Adesso sto uscendo con più watt e sale molto di più. Sale a Santiago 8, dai. Vabbè, vedi, ti segna anche il watt d'uscita, capito? È normale che se tu dici con pochi watt la lancetta vada in basso, normale, no? Sì, effettivamente quella non riesce neanche i watt, perché c'è la posizione power. Posizione power, non mi vedo qui, no? Ehi, power sono il watt d'uscita. Sì, piano piano te la studi, magari vai su internet e se la trovi, come a radio, ti vedi tutte le sue, magari c'è anche il libretto, l'istruzione. Sì, piano piano già, adesso come mi dà il coso delle frequenze, tanto ci metto quella che mi è prestato dentro la busta, al massimo. Massimiliano, voilà, tanto come ci sono qua, adesso vai, io vi saluto, domani mi bisogna vedere. Ciao Antonio Carotte, ciao Franco se ci sei ancora, Luca, Gianluca mi pare che era qua in QRX, a te Gianni, Massimiliano, Eugenio e tutti quelli che sono ascolti. Buonanotte a tutti signori, a domani, ciao ciao. Ciao ciao, buonanotte, buon lavoro per domani, avanti Franco. Riprendo io. Ciao Cla, buon 144, buon QRT, dai, buon trabacco per domani, ci sentiamo le prossime. QRX un attimino per me, riprendi la maglia o il maglio, Gianni Dopiorro. Gianluca ci si. Aspetta, riprendo io, saluto a Claudio, va, buona serata e buonanotte. Ci sentiamo le prossime, avanti già. Ciao, ciao a tutti, buonanotte. E c'è anche Eugenio. Avanti oggi! Sognami! Oh, nudo vestito come vuoi, però sognami! Ciao! Buonanotte! Che sogno! forse ho detto una cosa giusta di quella radio, che sogna il vatto in uscita, così è! Capo! Forse così! Ma se ne lascia con tutti i vatti, va bene! Sì, infatti dovrebbe lasciarlo il vatto al massimo! A meno che lui utilizzi qualche lineare, allora lo abbassa. Vabbè, ma anche se utilizza qualche lineare, anche con il watt al massimo va bene, ma con 4 watt va bene lo stesso. Sì, va bene lo stesso, però la radio è più limpida, più, non lo so, più, un po' più forte rimane, dai, non più limpida, più forte a decimale. Positivo. Positivo, se lo trovo quello in eretto glielo regalo, mi sembra che ne ho uno, che danno intorno a una cinquantina di svato, 60, una cosa del genere. Se lo trovo, se bisogna avere se lo trovo glielo regalo. Ne avevo due di lineari, i V153 della ZG. Bruciati. No, me li ha aggiustati i pomponi. Che adesso devi vedere come lavano la camicia, ma bene, bene, bene. Allora è buono, va, è buono, basta che non fa saturare la radio. No, guarda, va bene perché di detersivo ce ne vuole poco a poco di detersivo ed è la fine del mondo. Sono buono. Chi è di voi abita più o meno dalle parti di via Napoli? Ci ho visto un antennone e un amanto qua. Napoli? Sì, sto passando in via Napoli, dai. Una parallela via Napoli e c'è, ho visto un avanzo qua grande. Non ho trovato nessuno a quella zona. E bisogna vedere. aspetta via Napoli. Ma sei sicuro, via Napoli o via Mendola? No, via Mendola è giù. Su, dove c'è la tutto rotto? Ah, dove c'è la direzione? Qualcosa di più. Tu stai dicendo via Ferrucci? Sì. È una, un vicolo chiuso che da, è una delle ultime traverse di via Napoli salendo prima di trovare via Milano, la traversa di via Milano, e si chiama via Ferrucci, e all'angolo lì c'era tutto moto, se non sbaglio. Se tu guardi ti stai riferendo a una terrazza che c'è a un secondo piano, fai di palazzo al secondo piano, e lì c'è un animatore, ma c'è ben altro che una mantova. No vabbè, io l'ho visto dalla parte dei pompieri, della via, diciamo, che scende dai pompieri, ho visto solo la mantova. Tu non hai visto quella roba che non c'è da loro? Ma i pompieri, a parte via pompieri, come fai, scusa, i pompieri a vedere via Napoli? Stiamo parlando di almeno 500 metri di distanza. No, sono sceso dalla via, dei pompieri, e poi ho girato la parallela di via Napoli, e ho visto come ho girato, ho visto questa mantova. Non so a che ti stai riferendo, via Napoli non c'è nessuno. Quasi ingresso via Milano, mi? La via che ti porta poi alla rotatoria di via Milano. Lì c'è un radioamatore, ma c'è ben altro che quell'antenna lì. Vabbè, ma è già quello che sta dicendo lui, là. È quello lì, Antonio, hai capito? Sopra quella terrazza, là. Sopra una mantova, ma non è una mantova quella, o... Oh, è un giro. Mi sembrava comunque. E diciamo la BML, la lì da quell'angolo che sono i semafori, si vede bene. Caparoce, ma ti stavo spiegando che quelli che si vedono non sono tiranti dei pali, ma sono dei poli, sono radiali particolari, vedi? Sì, vabbè. Però anche l'antenna centrale, diciamo che non è una mantova. Oh, negativo, quella lì è una multibanda e chiaramente c'hai i poli, cioè i radiali che sono tirati e che hanno diverse lunghezze per, a seconda della frequenza su cui sta lavorando per farla risuonare, capito? Sì, riprendi Gianni, ma tu domani mattina non lavori? Sì, lavoro, domani sera no? Vediamo che non piova domani. Non lo so, non le ho viste le cose perché domani mattina, domani sono di riposo, ho lavorato oggi e mi basta così, ho lavorato la bellezza di 4 ore. Ma sa che sta piovendo, perché sento rame tuc, quindi sicuramente sta piovendo. È possibile, perché anche questo pomeriggio trovo adatto dei schizzi riadatti. Ma niente, qua non sto facendo niente. Che palle, buongiorno. Qua una bella giornata, tutto il giorno. Sì, ma anche qua. Anche qua, vabbè, mezza mattinata ce l'abbiamo passata giù a Porto Torres. C'era un sole, stava così bene. Ma da dove sta modulando Eugenio? Sì, da Porto Torres. Ah, papà Tango, allora stai arrivando una bomba. Ma che antenna hai? Non me lo ricordo, l'ho comprata la massima. Ah, allora è un coso. Una cagata. Ci assomiglia, va. No, sto scherzando. Ci mancherebbe, anzi. Guarda, il miglior acquisto di antenna che ho fatto l'ho comprata proprio la massima. E ti dico la verità, è la numero uno. Energy 5 ottavi, è una bomba quell'antenna, Massimiliano. Ma l'hai fatta a venderla perché è meglio della mantova, ti dico la verità, risuona molto meglio. Ma cioè non sta prendendo il culo o sta veramente parlando sul serio? No, sto parlando discretamente e sinceramente sul serio. Guarda che, allora, adesso non entro in merito al personaggio perché si sa che tipo di affetto negativo mi leghi, però Pomponio che ha una quella che si chiamava via 27L, perché poi gli hanno trasformato il nome e l'hanno chiamata Energy 5 ottavi. è la stessa antenna ed esce bene proprio per quell'antenna lì. Quell'antenna l'unica cosa è che è un po' debole a livello strutturale, però esce a un numero di dB tale che è il doppio di quello di 90 watt turbo. Ma funziona bene quell'antenna, funziona veramente bene. Allora, tu ti ricordi, tu guarda chi esce con quell'antenna lì, sono tutte persone che arrivano a bomba. Se tu guardi anche Coso, o come si chiama, Falchetto usciva con una di quelle antenne a cui era caduto anche un radiale e arrivava che era una bomba. Sì, è vero, e arrivava anche parecchio lontano. Detto, risuona benissimo quell'antenna. Tanto è vero che se li vale tutti già quello che costa originariamente, perché costa una novantina di euro, figurati pagarla la metà. Ti ripeto, è da una parte pronta a essere piazzata, perché la devo piazzare in un palo un po' esile, perché poi non pesa niente, quindi va benissimo. L'unico difetto è che strutturalmente è un po' debole, quindi secondo la folata di vento che ti arriva, cioè la folata, se è vento serio te la spezza. Però è davvero una delle migliori antenne secondo me che abbiano prodotto a livello di guadagno di dB, di guadagno di dB. Ma a lui invece cosa gli hai dato? Lui gli ha dato sempre la 50, però la grande Grand Plain, quella la più grande che c'è. Ah, ho capito, la Grand Plain è quella a 4 radiali. No, quella a 3 radiali, però quella da 1,68 m l'uno è radiali, eh. Allora sei sicuro che sia una 5/8, non sia una cosa che c'era, oltre alla 5/8 c'era la 3/4, come si chiamava? Un quarto d'onda. No, un quarto d'onda è meno di una 5/8. Perché la 5/8 è intorno agli 8 metri, 7-8 metri, mentre invece il quarto d'onda dovrebbe essere 11 diviso 4, 2 metri e qualche 2,70 m. Una mezz'onda. No, allora le antenne sono classificate per un quarto, mezz'onda, 5/8 e dopodiché c'è 9 undicesimi, mi sembra una cosa del genere, perché l'onda completa è 11 metri, quindi si ottiene l'onda su cui moduliamo, si ottiene dividendo la velocità della luce per la frequenza, quindi sono 300.000 km al secondo diviso 27.000, che è la frequenza su cui usciamo, ed esce 11 metri. Questi 11 metri li dividi per 4, oppure fai il rapporto 5/8, oppure dividi la metà, e capisci che un'antenna di un quarto sarà 11 diviso 4 e ti dà esattamente l'altezza dell'antenna circa. Oppure fai il rapporto della metà, chiaramente sono 4,3 m, oppure fai il rapporto di 5/8, cioè devi fare 5/8, devi fare 11 per 5 diviso 8 e ti dice esattamente quant'è. Poi c'è scritto 5/8 da voi. 5/8 dovrebbe essere, aspetta, te lo dico subito, l'altezza della 5/8, che poi è l'altezza standard. Tu non l'hai detto, si può anche trasformare con la bobina l'antenna? Assolutamente, le antenne si trasformano tramite la bobina, tanto è vero che tu la stai con la bobina, la stai, quando vai in accordo per accordare, la stai allungando o accorciando a seconda che sia i canali alti o canali bassi. Con la lunghezza c'è persino un certo punto. A me viene segnato così. Poi con la bobina puoi farlo diventare 5/8, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere la bobina più grossa e più lunga, e dalla bobina è come se dividessi l'altezza. Ad esempio, l'onda su cui stiamo trasmettendo adesso è 11,080, perché ho fatto 300.000 diviso 27,075 e dà 11,080. Quindi il quarto d'onda per questo canale qua, cioè perché si è accordata al massimo, sarebbe diviso 4, sarebbero 2,77 m. Quindi se devi fare un dipolo di un quarto d'onda devi fare 2,77 m a braccio e ti esce un dipolo da un quarto d'onda, mentre invece per due la mezz'onda sarebbe 5,54 m. Adesso ti dico la 5/8 anche quant'è. Comunque l'altro giorno, non te l'ho detto, adesso te lo dico, ho avuto un discorso con Roberto Quadrato, perché quando gli ha chiesto che antenna aveva, gli ho detto una 58, perché lui non se lo ricordava, gli ho detto una 58, perché mi ha detto Massimiliano che era una 58, mi ha detto che non era possibile, che la Grand Prix non può essere mai una 58, gli ho detto la vai su internet e guarda che c'è una Grand Prix che è 58. Allora, mentre invece la 58 è 6 metri e 92. 5 ottavi, sì, 6 metri e 92. Questa è la 92, con la bobina grossa, amico. Poi chiaramente a seconda di come la bobina, l'antenna può anche essere più o meno lunga, capito? A seconda di come la carica. Adesso guarda un attimino su questo libro che tutti dovrebbero avere, che è CB Radio, che è ricetrasmettitori per CB banda cittadinale, che è di e Costa. E vi dico una cosa. Senti, guarda, avanti oggi. Sì, là. Stavo leggendo le cose che mi hanno scritto su Facebook, un attimino. Positivo, positivo, ok, va bene. Comunque anche se non è zona, va bene, comunque nel foglio c'è scritto 58 da 2, perché poi ho già, è proprio la Grand Prix originale quella, che la faceva la Intec, ti ricordi? Ma la mezz'onda era quella della Lemma, l'ho avuta io, ed era una bomba, invece da Massimiliano che da un sacco al cuore dove abitavo io prima, ad Alghero arrivavo 9.5 la radio a bomba, tutto bene, bene, bene, io c'avevo lei in quinto col microfono MB+2 da Palmo, l'MB+2 Allora. Le antenne sono un quarto d'onda, mezz'onda, 5/8 e 3/4 d'onda, che è la più lunga. Se non è che con la canna a pesca, fai una canna a pesca da l'antenna perfettamente accordata, senza bisogno di carica, e arrivi all'onda perfetta, che sono 11 metri. Va bene. Sì, ma sono cose che si sanno. Gran Prix, quella che c'era prima, lo so che non era 5/8, però quelle che fanno adesso ci sono, e dice ma non sono Gran Prix, si chiamano Gran Prix lo stesso, c'è scritto Gran Prix 5/8, io perché Gran Prix l'ho presa, c'è mai diversa, sempre Gran Prix. Già, nel foglio c'è scritto 5/8 da 2, se non è 5/8 non lo so, comunque era chiusa, imbustata. Sono quello con la bobina grossa, alta mi sembra che sia buono, non lo so quanto sia alta, 3-4 metri buono, non me ne metto bene. Non so se tu ti ricordi già l'antenna che avevo piazzato io a casa, che me l'aveva data quella persona che tu conosci bene, che adesso non tratti, tutta piegata, tutte cose, c'è la propagazione che ha fatto quell'antenna, ma con un po' di vate sotto pure, eppure usciva alla grande, uno in stazionaria, perfetta, te lo ricordi? E dicono che le Grand Prix vanno, come ha detto Roberto Quanto, la Grand Prix va bene solo in città, poi fuori perde il segnale, ma non è vero, io la Grand Prix usavo anche in lunghe distanze, andava bene. Oh già, io, guarda, prima di attivare la banda, qualcuno avevo quella. Alla fine si equivalevano, anche per esempio ho fatto le prove con Gigi, quando tornavo lì da Cagliari, fino a Macomer mi sentiva tranquillamente, ho la mano, ma mi sento fino a Macomer, Borocano, quella zona lì. Differenza di segnale ce n'era ben poca, perché quando l'ho piazzata anche la Mantova ho provato a casa di Claudio una 9,20 e l'altra 9,18, quindi sono questi 2 dB di guadagno in più la Mantova. Ma Antro, ti dico, guarda, quell'antenna mi ha dato soddisfazione, una cosa allucinante che questa Mantova non mi ha dato. Alla fine viene sceso anche un radiale in terra, sempre gli andenni, lo stile centrale tutto storto, 1-1 sempre in stazionario. Ma ad esempio, a seconda della situazione in cui ti trovi, un'antenna di mezz'onda vale più di una 5/8, perché l'irradiazione è diversa, la stavo guardando qua, ad esempio un RSS in un buco, in un fosso, proprio perché c'è un'irradiazione molto alta, una tre quarti vale sicuramente meno di una 5 ottavi, la tre quarti è più lunga, però la 5 ottavi vale meglio perché irradia diciamo più orizzontalmente, mentre invece la tre quarti tende a irradiare sui 60 gradi, quindi se ti trovi in un buco è l'antenna migliore che si possa utilizzare. Quindi 5 ottavi, mezz'onda, cioè è relativo poi alla fine, a seconda della situazione che ti trovi e della tipologia dell'antenna. E comunque se io mi dovessi ripiazzare un'antenna adesso, sicuramente la Energy sarebbe la migliore, secondo me. Sì, ma sono antenne che vanno bene, veramente bene. Guarda, adesso vabbè, abbiamo fatto l'esempio di Eugenio, che sta trasmettendo da Porto Torres. Fai conto che questa Gran Prix avanti non sia, come c'è scritto nel foglio, che sia mezza onda o un quarto d'onda. Comunque, sta usando una bomba, cioè perlomeno l'ascoltate abbastanza bene da Porto Torres. Io pensavo che fosse a Sassari, che stessi uscendo basso ma da Sassari. Per Porto Torres mi è vinta. Adesso stavo guardando una cosa, ti dico subito una cosa, aspetta. Ti dico che lui l'ha montata anche bassa dal tetto, Se quell'antenna ma lui la solleva altri 2-3 metri più in alto, vedrai che la musica cambia ancora. Sì, vabbè, è bassa, È bassa, è montata bassa. No, ma io sono solo super contento di questa antenna, ragazzi. Cioè, vi ricordate che condizioni ero prima? Uscivo con l'antenna a base calamitata con un pezzo di lamiera sopra il tetto. Sì, oggi è tutta una traguba. Guarda, io la prima volta che ti ho sentito, diciamo che non riuscivo a capire quello che dicevi, tutto a frusci, tutto a cose, non si comprende la ruta. Guarda, qui sei 9, quasi 20, fate un conto, quanto è migliorato. E sei basso, attenzione, sei basso di antenna, cioè un segnale come qualcuno di qui a Sassari. Allora, stavo dicendo, lo sai quanto costa quell'antenna che mi hai venduto? Quell'antenna che tu mi hai venduto al prezzo che sai quanto costa? 119 euro adesso. Hai capito? Cioè, cosa vai a venderla di più? Quando la stai dando un amico non gliela puoi dare al prezzo che costa, hai capito? Anche se quell'antenna che io ho dato a te, visto che l'ha chiusa dentro il cellophane, quella che ho dato a Eugenio l'ha chiusa dentro il cellophane. Cioè, no, ho solo aperto per vedere il fogliettino, le prestazioni, non bastano. È nuova, mai usata, mai piazzata. Poi guarda, un'antenna si vede subito se è usata, perché a meno che non ti sei messo a lucidarla con la carta abrasiva, ma le antenne, anche se stanno un attimino fuori, si ossidano subito, anche se gli metti la vasellina. Positivo, sì. Adesso io per esempio ne ho un'altra mia, tu, di Grand Prix, ne ho un'altra che ha lo stilo 1,68 m e radiali 40 cm in gomma, tre radiali in gomma a ombrello e lo stilo centrale 1,68 m. Quella si chiama Mini Grand Prix, di solito la fa la LEM, la faceva la LEM, ed è, però strano, tre radiali, perché mi ricordo ne aveva quattro, ed è, si chiama Mini Grand Prix caricata, e c'è la stina in alto che serve per regolare le stazionarie. Al centro ce l'ha, però c'è la carica lunga, plastificata a nera, c'è la carica, allora c'è ancora il pezzo attaccato, la fa sempre la Intec, c'è il pezzo attaccato, 69 euro. Ma io guarda che quelle antenne le ho avute tutte, ce le ho avute tutte, e quella lì ce l'ho ancora, ed è una bomba. Se non sbaglio dovrebbe avere i tappini rossi alla fine dei radiali. Positivo, ok. Ma Eugenio, prego. Sì, sto dicendo, va benissimo, cioè, perlomeno. Io sono soddisfatto così, tanto ora c'ho il baracchino, c'ho l'antenna, riescono a sentirmi, due chiacchiere vanno troppo bene, anzi, ho anche il microfono, due chiacchiere vanno troppo di lusso, alla grande. Ma guarda, io ti ascolto, adesso non so magari se sono favorevole per te, perché sei alle mie spalle, ma capito, io ti ascolto benissimo, tutto bene, bene. Sì, vabbè, ma se tieni conto, vedo in linea d'aria, magari siamo anche molto vicini. Vabbè, saremo anche molto vicini, e vuole in linea d'aria almeno 20 km, non lo so. Sì, sì, forse anche qualcosina in più. Positivo, quindi vedi bene che non è che siamo così tanto vicini, ma sono sicuro che migliori ancora quando una volta che la sollevi di più, sono sicuro, guarda, al 100%. Comunque già così ti fa ascoltare bene, avanti lo più lungo. Io vi saluto perché me ne vado tutto a dormire, che domani sono, ne mancano molto, quindi va bene, va di bisogno. Vi saluto cordialmente, vi auguro buon continuo a queste ore, ma non calasco che qui vanno a il tipo che non tenere la portata inserita, non si sa mai, è gnacchi gnacchi, capito? Buonanotte già, tante cose belle. No, è appeso al portamicrofono, il microfono non c'è problema. Buonanotte. Pensavo avessi appeso qualcos'altro lì al portamicrofono, cosa gnacchi gnacchi? Ronf ronf, mi pare. Anche io ho pensato a questo. E tanto sono avvitta, ma per andare in bagno. Ciao, già sto scherzando, dai. Buonanotte, buon 144 e buon trabacco per domani. Massimiliano, mi sa che ti lascio anch'io. Rimango in QRX che sto leggendo due cose. Che se mi avete stimolato la lettura. E ci sentiamo alle prossimine. Ciao Eugenio, ben sentito per la primera. Ci sentiamo alle prossime, dai, volentieri. QRT per me. Ciao, ciao. Ciao Antonio, dai, a te buon proseguo di nottata. Ci sentiamo alle prossime. Amato, Eugenio. Ehi, ciao, buonanotte, che non mi ricordo il nome, comunque ci sentiamo, ciao, buonanotte. Allora, lui si chiama Antonio Marribucco. Ehi, di poco, ma cosa c'è che c'è? Gigi Vulcano sto sentendo sotto. Ma io sento qualcuno, ma proprio piccolo, non riesco a capire chi sia. Allora, lo sento, Antonio, lo senti? Mi sembra Gigi, attenzione Gigi. Vai, quello è Giampaolo, col bipolo. Giampaolo? Lo sento io. No, io non lo sento, guarda, lo sento proprio... Sento si muove lo smitter, ma non riesco a capire chi sia. Ma io, se sei tu Giampaolo, attacca la cosa che va a attaccare. Oh, cosa che con l'altro baracchino non lo sentivo, con questo lo sento, Giampaolo. Capito che sei a letto, così è. Giampaolo, tu mi senti a me? Ha detto che è a letto col bipolo. Giampaolo. Anda a prima ho lato baracchino non ti sentivo, con questo ti sento, anda a vedere, un'altra cosa in più, vai. Avanti, immagino ti sta piacendo, va. No, ma già mi piace, dovevo studiare bene, no, ma già va bene. Massimo, via. No, cos'è, condito dai? Adesso ha capito più o meno il meccanismo, fra, capito? Perché prima andava a modulare e poi continuava a camminare da solo, se non lo fermi tu. Quindi facciamo un altro passaggio e dopo non lo tengo più. Già, oggi da dove stiamo volando? Buonasera, Tino Moscova. Chi? Scusa, non ho capito. Tino. Ah, ciao Tino, buonasera, ben sentito. Da Porto Torres. Sì, sono un produttore, sapete bene, dai. Ehi, mi sto provando, mi sono preso un bel apparato, dai, qua me l'ha venduto Massimo. Già va bene, antenna, apparato, microfono, se mi sentite va troppo bene. Guarda, io ti do le mie coordinate, diciamo, di Mavelta, la Teolci, presso a poco, sulla zona lì. Sì, un Santiago di 5... 5 a 7 fai, è una vera di 5. Andare, va benissimo. Vieni a fare i buchi, e pare, va. Oi, così, rapetti, a posto. Ma, diciamo, dici, mi sto guardando giusto le previsioni per domani, a vedere se ci fa lavorare, non è mai che ha fatto, sta mettendo più giovane debole. Ma, e poi, mezza mattinata, nuvolosa e bassa. E là, se lo sai, se piove, non è che si possa fare neanche. È positivo, ma io non sono più, ho finito il contratto, quindi non sono più. La cosa è finita di anno. Ma lascia perdere, cara, perché secondo me c'è un casino della metà batta lì. No, no, non erano finite, sono sempre. Pensa poco dove siamo noi, dai, appena più su. Oddio, quello forse il segnale è aumentato adesso, da come arrivavo prima. Guarda un po'. No, per me si è abbassato, la radio è rimasta uguale, sia un Santiago 4 o 5 fai, la radio è sempre la suita. Strano, non sta situando. Guarda, non so che radio stai usando, ma questo poco credo che sia Pianeta Kingwood. No, negativo. Il Galaxy Uranio, una cosa del genere. Uranus. Vabbè, a passare appena appena che ci oscilla magari di più lo Smith. No, sto uscendo con 5 volte normali adesso. Prova. Adesso sono 5 volte normali, li ho abbassati. Prova a usarli. Adesso sto uscendo, non mi chiedo con quanto, ma sicuramente di più di 5. Guarda un po'. Guarda, quando eri con 5 facevi da 3 a 5, ora fai da 4,5 a 5,5, quindi non è che sia più del dovuto. Anzi, io forse ce l'ho anche un po' troppo alto, ma... Oh, adesso l'ho abbassato, dai, una decina. Allora, qui invece aumenta parecchio, perché con 5 volte fa da 9 a picchi di 15. Quando aumenta fa da 9 a 10, quasi a 9 a 20. Vabbè, io sono in una zona un po' negativa, negativa. Diciamo che sono uscito dalla veloce, però sono un po' in basso. Non è più la stazione che avevo quando ero alla veloce, che il produttore se proprio ero sparato. Ehi, vabbè, l'importante è sentirsi, dai, non è quel problema. E vabbè, ma si vede, pensa poco dove sei tu? Sono a San Giovanni, sono. Campi di calcetto, lo sai dove sono campi di calcetto? Quelli lì dove c'è il serbatoio. Ah, sì, sì, ho capito. E quanto vado lì? Guarda un po' lo segnale. Ma spero che sta il amplificatore. Vai. Vedi un po' là. Ora, 1, 2, 3. C'è mio figlio che sta muovendo. Sì, 59 più 20 qua. E a voglia. Ma invece che fa inserire il amplificatore? Sempre con gli 10 watt, guarda. Ora, 1, 2, 3. 25 a picchi di 40, sì. Già si fa sentire allora. Anche io sono con 10 watt, con 10 watt di apparato fatto. Ehi, vabbè, anche io. Poi vabbè, 9 watt, questo spinge. Anche questo spinge, eh. 9 watt qua se ne vanno a 70, i picchi. Vai, capo con niente. E lo vi. Se voi non dovete fare un cazzo domani, Andate a dormire, vai. Ma Luca, avrei preferito lavorare, fidati. Ascolta, te se ti trovo a fare shopping, vedi. Luca, quando c'è un bel questo che sei tranquillo, manco un giorno di me. Infatti io dovrei andare a mangiare, cucendo a voi, però adesso spengo tutto e vado a mamma, se no domani manco il canone, me ne besano e ci mattino nuccolo. Ciao, Luca. Ora ecco, se ti trovo a fare shopping di nuovo, vedi. Io invece, dai, che domani se non mette acqua sarà dura, devo fare dei collegamenti in Politirene e sono un po' difficoltosi. Vi saluto, buon proseguo questo, grazie, lancio a te e poi aspetto i saluti per la nanna. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, sono andato a salutarti. Allora già salutato, sono venuto la gira in radio, ho lasciato Cesare. Stavo facendo compagnia, l'aria stava cenando, che è 10:30 da lavoro, alle 10 avevi saluti a casa del Procimino e vai Massimiliano. Ciao Tino, ora entra più spesso magari, se già ci fa piacere. Ciao, buonanotte, buon collegamento. Spero di farne qualche volta notte se ti capita. Non il DVC, di quelli più in gamba. Cosa può la vanno? La presa, c'è appena drubi drumioli. Stavo rompendo le mani fino adesso. Claro, quando vuoi passare c'è sempre tempo, quindi lo sai. Ma parlato perché ho fatto appena 5 mesi. Ah, ho capito, ho capito. Sì, guarda, io non sto piano da nessuna parte, da quando sono risalito quassù, proprio a zero, sotto zero. E poi sabato sto lavorando, sabato mattina, domenica, ma sì, una nostra le prime, casini, testa, destra, sinistra. Vabbè, comunque troverò 10 minuti per venire a prendere un caffè. Ciao, grazie, alle prossime. Eugenio, le prendi per i saluti a Tino. Ciao Tino, ci sentiamo e tutte cose ecco cercate. Ciao ciao, buonanotte. Vabbè, ciao a tutti, ciao. Ciao ciao Tino, va. Ma questo va a Claudio, vattene a dormire che. Ma io la penso. Un quarto d'ora fa mi ha perso una borretta, piano piano me la sto bevendo. Adesso me la finisco e poi me ne vado a andare, no? E giocare tutti di dunno. Vito la legge mi ha deciso oggi. Saluti di tutto oggi. E saluti dai, saluti. Abbiamo fatto un pezzettino. E ora che fa male facciamo col cornetto, va bene. Allora, l'ho tutto pulito, messo nel tegamino, pollo, cipolla, aglio, pezzone, pronto il condimento per domani, fa due cornetti. E via, là. Oh, mi fa, non è che faccia male, attenzione, tanto è pesce, voi non fate male, anzi, quasi, io oggi ho mangiato pesce, in salamuria, muggini orati in salamuria, spaghetti alle vongole, e ho fatto pranzo e cena con quelli. E io lo stesso, ho mangiato tonno a colazione, capito? Con la maionese e la Nutella, allora pranzo, torra, tonno, con la maionese, capito, pomodori freschi, a cena torra, tonno, dove torra, tonno, cazzo. Ascolta, mi sembra che ti do, che ti do anche l'altra parte. Aspetta, lo sai, con la zuppa riba, cosa riba, come c'è una bella zuppa. Quella c'è una bella zuppa, capito? Non c'è problema. Oggi, dice, ti porto un petto di pesce, mi tranquillo, 20 kg di tonno mi ha regalato. Addirittura. Vabbè, quando ti metti cosa fai? Gli dai, cazzo, cosa devi fare? La gola le dai. Un petto di due gola, giurato. Allora la cipollata me l'ha abbandonata al pomodino, così mi ne ammetto, ma domani devo mangiare il raduno. Comunque le pernette sono buone al tonno. Allora, buone, no, appena lasciato, buono, ho già fornito come volte. E c'è un po' di vino bianco, e domani facciamo le pernette. Allora, metti la mammata per il pesce, qualsiasi tipo di pesce. Se vado in parola la mamma, la carta, la trotta, cazzo, chi pesci ci abbia dove? Allora domani sono andato a mangiare. E vieni, ti fa piacere. Tonno, eccolo, acqua al tonno, per primo, per secondo, trance di tonno, poi per settimo ci va un poco di tonno con la panna, e boh, lo va giù. Lasciate anche un paio di tracce, portatelo di notte. Tutti i piaceri, già tutto tornato, non ve ne più. Tra oggi e domani mi rimane giù la gola e me la tocco le balle. Ma se devi fare i mutazzi. Buono. Oggi, siamo una bella valuta, meglio di riuscire. Ah, beh. stretta, una giornata, una giornata lunga e sofferente. Ci vediamo e buonanotte a tutti. Ho bisogno di oggi, che la vita vuole continuare, te l'ho già detto, no? Salto con voi, certo che è una giornata un po' particolare, però devi pensare che la vita continua, perché se ci fermiamo noi, ci ferma tutto. Ti auguro buonanotte, te l'ho già fatto, ma te le faccio tantissime condoglianze, e in bocca al lupo. Ciao, oggi un abbraccio, avanti, Massimiliano. Positivo, là. Ciao G. Guarda, noi siamo in quella sera, dalle 4, dalle 3, non me la metto più, ma con la vera. Ma buona, tanti auguri, ti faccio tanti auguri per non dirti le mie condoglianze che te le ho già fatte, ma forse è meglio tanti auguri, là. Buona giornata e buon tutto per domani, sentiamo le prossime, ciao G, buonanotte. Ehi, vi ringrazio ragazzi, ciao a tutti, buonanotte. Poi Massimo ti chiamo io per regolare il tutto, ok? Non ti preoccupare oggi, fa quello di fare, no, non ti mette problemi. Va bene? Dai, vi ringrazio di nuovo e buonanotte a tutti. Oh, capo in bugnia, ma tu credo, sai? No, adesso mi faccio altre due tirate di penna. Mi semplice tu. Tu finito con la birra, grazie di ordine a tutti tu. A voi io pago male, non dovrò mai mangiare un pezzo di uno. Io ho rilasciato, guarda, tu non ci crederai. La pasta del vongolo di pranzo, me ne mangio, la pasta mia madre, e me ne lascio un po'. Mi hanno mangiato un po' di salute a cena. E un po' ne ho portato male a pranzo, fate un conto. Visto che sei in tono di pesce, se vuoi te lo faccio accompagnare con una traccia di tonno. Ma Daniela chi è? Daniela sta sempre vedendo, è compiuta. No, lui sì, no. Tanto per capirci, poi io devo fare, e prima niente di uno, con pesce, e te la batto nel nombre. Avevo pesce, faccio che la buccia che un buco e mezzo, faccio un panino domani, un tunno al bongo, Stavo dicendo, se ti è piaciuto io, va bene. Ti è piaciuto, Claudio? Però va bene, a me io mangio di tutto, ma ti giuro, in tutti questi anni mangio mai mangiato tunno in vita mia così. Sciogo la salame, io non ho niente di tunno. Sciogo la rutti di tunno, non ho fatto più. Oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh mio, oh. Mamma mia, come sto? Ma ce l'ha fatta a fare un turno. Oh, ma magari fare un problema. Un problema che stavolta magari si attrodi il turno. Ma ci vediamo. Adesso così vedi, dicono a Santa Teresa. Già, vabbè, fatto, ora vado il turno. Sicuramente è meglio dei fagioli. Sì, è meglio dei fagioli, sì. Cioè, io l'ho tirato dato per finirlo tutto la buccia, no? Ah, ma non mi trova che ci guasta. Se mandiamo il giro in 3D, cioè facciamo parte cena, parte cena, parte cena, non ho capito, non c'è problema. Dicevo, vedi, io sono con un turno, ho fatto un turnetto. Adesso appena mi ha detto che buscava un altro, no? Mio cugino ha detto, no, non me ne dà. No, quando l'ho preso già te lo do. Però appena appena più grande adesso ne rimane più buono, e allora tu hai ragione, no? Quando me lo dati ti devo qui in trio. Sì, io ci sono tutto il mese, ma niente dono, ma ci vediamo, non mi so problemi, altro già lo so. Ancora si invece mi compare giù dei cattoli, di chi di maniera, non ho fatto sotto un vuoto il burro. Perché, cazzo, non è male, cazzo, sotto un vuoto lì è buono, lui è cazzo. Guarda, stavo troppo credendo con l'altro. Un amico io, un collega che le piace il tonno. Allora, la mangiare a me, a giù mi parlo, c'è la bigiottina. La mangiare, quanto è dove? A mezzo una pianta ci mangia la banina, lo faccio di... tirare ancora, ho preso di ancora per arrivare. Il tempo è molto legge, no, è sempre un tipo d'unno, d'unno. L'anno scorso mi ha raccontato, sono andato a pescare il tonno, una cosa favolosa, lui si vedeva, si goccia piccante a fine del mondo. Domani abbiamo voce, lui, che ho già preparato il corso. Se vuoi, te lo faccio assaggiare, perché io, guarda, ne ho fatto una bella scorpacciata. Va bene, ma da quanto è che non mangiavi il tonno così? Così, in vita mia non l'avevo mai mangiato. A pranzo, a cena e torno a pranzo. Ma non viene fumato questo a cena, burro, no? Se mi fa piacere un po' di vita, se fate un pranzo, a cena, cosa vuoi di più? Poi c'è il fatto in gusti diversi, no? Pezzettino con i pomodori freschi, l'altro messo l'aglio, olio e prezzemolo, ma complice. Non c'è da sbagliare, mi. Cosa c'è a mangiare? Mi c'è il tonno così, poi c'è il tonno fatto così e il tonno, scatto tutto il tonno. Poi la mamma mia, ragazzi, che ride, no? Va bene, ma è già una cosa buona, dai, ok, una volta ogni tanto fa bene a farsi a me un assaggio, là. Se ogni volta ogni tanto fa, una volta ogni tanto fa bene a fare un assaggio così. Quindi ma con i vostri figli ho un assaggio molto, che me ne sento una legge. Un assaggio. Metti che è giù, non devi dire. Marco, è la nostra famiglia, mi hai dato domani, riuscivo a fare domani a dire. Scusa, è davvero me. Mamma mia. Ancora Gaia, chi sta ancora scattiendo me? Oh, ancora scattiendo me, giù dentro con le costruzioni. Tu immagini, non so, mezzanotte. Ah, sono 11:25. Guarda Gaia, alla mano come ne ha ritrovati, che stamani porta mani a un duro, a panna. No, io mi devo stare attento, a chi rigirate via della roba, bubù, eh. Infatti, ma come la roba bisogna mangiare la pasta del lungo, eh. Ma la faccia, ce la butti, solo che anche qua, no, funziona così, mio caro, non ti pensi sia una cosa di peso. Uno che quando ne fai un bel, no, mangi, per esempio, la notte, l'indomani a pranzo, l'indomani notte, sempre la stessa cosa. Cazzo Daniela, quando fa il brodo, mi fa, cazzo, una pentolaccia, sì, mi giuro che è, dame. Ma poi una pentolaccia dura 3 giorni. No, ma anche qua la verità, ma si fa delle cose, delle quelle mega galattiche, capito? Ci vuoi fare un menestrone, eh? Qua, dove obbligo, mi sono tutti i bigiottini pronti. A chi? Chi c'è paro luni, chi c'è paro matti, chi c'è paro macoli. Sempre lui ci tutta la miele. Tu puoi fare un cartellino lunedì minestrone, martedì minestrone con la pasta, mercoledì minestrone con la cazzo, sempre minestrone. Poi va, ma è una cosa impressionante, va. No, ma poi, cioè, cazzo, siamo in due, capito, siamo in due. Cazzo, si vuole 3,5 kg di carne che dura 4 lì. Lo cucina a pranzo, cena, lì domani a pranzo, e hanno tutto di durare. Cosa c'è? Brodo, e di sotto carne di brodo. E però, brodo, e di sotto carne di brodo. Cazzo, è una cosa allucinante. Anche qua è così, guarda, guarda, è una socia quando faceva il periodo che hanno fare, per dire, il periodo, sai, che si mangia la farrata, ma la faceva per due, lo faceva tutto un condominio, e faceva una ghiba sempre in maniera di vara, sempre in maniera di vara. Alla fine, dopo che ci troviamo, che gli ha cagato. Ma no, quella mia mi associa, la mia, ok, mi associa al maggiore buono, che ci si passa in un caso. Tanto poi 4 cavoli quelli a Puglia, vedi? 4-5 di quella roba lì, cazzo, 4-5 kg di fava, l'arno, capo di buono e poco, infatti, mi hanno mangiato dall'otto, vista la gira dall'otto, sempre così questa roba. Vabbè, i vecchi sono abituati così, perché anche mamma faceva la stessa cosa, nonna, di suoci, a volte dicevo, ma te la qui siete in due, che vinte due, non mi dicesse, hai un muro, va bene, una voce, due voci, ma io tutti per la vita, sa, uno abitavamo dove sono io adesso, abitavo mia suoce, io sopra, no. Quindi la follia è così portato da lui, è fame, cazzo, non lavate le mani, e che non voglio la mangiare, dite me, e va bene, mi voglio la rindare, allora prendo un bigiottino, fame, no, cazzo, non ti rimani tu. Mamma mia, la voglio dire, mamma mia. Oh, cazzo, io sto guardando Facebook, no? Ma io perché ho due profili? C'ho uno Claudio col tuo cognome e l'altro Claudio, il tuo cognome Sparviero, ma quale devo tenere? Allora, non me ne metto, mi pare Claudio Sparviero, Claudio Marti Sparviero mi pare, boh, ma non me ne metto, o Claudio Sparviero Marti, boh, comunque ora il secondo, il primo no, non ce l'ho più. Il secondo, non è un secondo, ma io ne ho due. Anche l'altro giorno sono entrato così in chat, tanto quella mi è tutte e due, ha detto, ma non è che tu hai dato qualche nome a qualche amico tuo radioamatore per mettere qualcosa, ma forse? No, Antonio ce l'ha, Antonio è quello di Itti, ogni tanto mi manda qualche link, qualche profilo, comunque tu guarda che quello si fa foto, il profilo nuovo è quello che non ce l'ha foto. Ma forse non hai compreso che la foto non c'è né in uno e nell'altro. Sono tutte e due senza foto. Però guarda, l'ho piatto, uno lo puoi cancellare. Uno lo puoi cancellare, Massimiliano. E se lo lascialo stare, adesso è tardi, non vuole accendere il computer. Allora, domani lo accendiamo e io entro. Mi chiami e così ti vedi il profilo quello giusto e l'altro lo cancelli. Io infatti uno lo volevo cancellare, però infatti per quello che te l'ho chiesto, che non so quale devo cancellare, ma cazzo, hanno manco uno, buono la foto, cosa ne so, di un pinzillo, cazzo, di un paio di gufi, di un microfono, cazzo, se non vuoi mettere la tua foto. Almeno sappiamo che cazzo è il tuo profilo quello, no? Domani ne metto la MC60, ne metto il microfono, ne metto domani, così quello che c'è, la foto, il microfono è quello che uso, l'altro lo puoi cancellare, allora non aggiungiamo. Adesso fra un po' ci andiamo a Nanno, mi sto aspettando che finisca le Iene e poi troviamo tutto. Cazzo, ma anche vaggio la banda, madre di Dio. Di due voci a contuno ci mettete, non ci sono problemi, hai detto la parola esatta. Certo, è vero. Adesso fra un po' spegniamo tutto e mi tocca a tenere il canale retro, le cartone animate, mi devo subire un altro pagnolo di cartone animati ancora. No, perché non c'è un momento senza cartone animati? Ma scartando sai, ma ho compreso che se vado a letto con lì, io gioco già con la mola nel naso dopo 5 minuti e lui mi sveglia, opa non dormire, ma accanto a dove si lascia dormire a luna di minuti, di due? Mamma mia, no, non ci riuscire io perché appoggio il gabo, è già andata la cosa, no, non esiste. Domani viva, che ora è 8:15, il vicino ha fatto l'errore di faceva la radio in camera da letto, no? Ci mette lì, ce ne invece al ghizzo Marzano, facciamo le fornitore a Codron Giannos. Ed è mettato pure la domenica Marzano, io avevo aggiunto una bocca, ma non lo dico più. Anche se la radio lo tendenti a tutto il volume, di questo quattro battonato non muro, invece ne ha trovato la radio. Secondo me è così, hai capito? No, adesso per esempio vedi, venerdì si è addormentata, si è alzata all'1:30 del mattino, no? Una città dalle 9, sabato mattina che siamo andati a fare la spesa, non si è addormentata più, non dopo pranzo, ecco. Fino a ieri notte all'1:15 a casa della mia suocera stava scacchiando. Tu penso a quanto ottiene lì di batteria e da benzina. Dopo tu mi dirà, si è seduto in macchina, ho fatto un chilometro ed era addormentata al massimo. Ma guarda, no, è una cosa impressionante, se non è tutti i giorni, l'una del mattino, non chiude l'occhio. Energia hanno, non è che dice vanno qualche 10 in figuale, chiaramente noi no. Io poi accetto la crollo, non è che posso stare, sì, se sto facendo qualcosa, però adesso con la roba di conti non è andato mi chiama mai io, quindi adesso spiego tutto, vai. Anzi, adesso dico, andando in bici un modo di che prima di stanotte avevo la ruta e faccio la tua mazza. Ma basta che ti metto lì, ce lo fai, e magari cerca, se riesci, di fare una bagnata. Mi fa di più cazzo, non si sa mai. Ma tu vai, ragazzi, faccio un tappo, guarda, ti sono qualità, ma faccio un solo, ma lo volevo tipo Franco. Allora, prenditi un diesel, dai, prenditi un diesel con l'acqua gassata, oppure ti prendi un brioschi. Ciao.